è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Questa della Daddario è la storia vera. Che piano. Si trovò a palazzo quella sera. Non è vero. E il premier che la vide così bella sul letto di Putin la mise a pecora. Fammelo dire. Luca, ti ammazzo. E furono baci. E furono sospiri. Per cortesia, fallo per me. Sono altri 1000 euro, 16. Durò tutta la notte questa cotta. Adesso fai una doccia, poi un'altra bomba. Non lo dire. Caro Parenzo, la Daddario cambia versione, lo sai, ha cambiato versione, fui buonasera. Costretta a ricattare buonasera. Silvio, hanno manipolato anche il mio libro, non sono mai stata una escort se non per quella serata in cui in realtà fui pagata da Tarantini solamente per andare a quella cena, sì, eccetera, eccetera. Però poi alla fine... Da chi è stato ordito questo complotto? Forse dal suo avvocato, da qualche magistrato nemico di Berlusconi, chissà. Ci siamo giocati anche la signora Daddario, buonasera a lei. In che senso ci siamo giocati la signora Daddario? No, che se anche la signora Daddario ritratta è tutto finito, no? In che senso è tutto finito, scusa? No, tutti, molti puntavano sulla testimonianza della signora Daddario, la prima signora che ha parlato, la prima che ha aperto le porte di Palazzo Grazioli. E senti Minzolini cosa dice, prende chi subito spunto il direttore del TG1, no? L'attuale direttore, è ancora del TG1, direttore del TG1, secondo il consigliere Verro che è stato nostro ospite, lo sarà. Bravo sto Verro, fino simpatico. Alla fine di non so che cosa, della durata del consiglio d'amministrazione, del suo mandato. O forse fino alla durata del governo Berlusconi, signor Minzolini dice, insomma, avevo ragione io a non dare troppa importanza, come se tutto fosse già accertato. Come se tutto fosse già accertato, avevo ragione io a... Sono stato crocifisso perché non ho preso la Daddario come oro colato. Solo che proprio per aver usato questa prudenza e non aver preso per oro colato i suoi gossip all'epoca, il sottoscritto e il TG1 furono crocifissi con l'accusa di essere recensori. Ora, lungi da me il desiderio di dire avevo ragione o di fare la morale sul comportamento delle altre testate. Ma questa esperienza dovrebbe consigliare a tutti un maggior rispetto dei diversi punti di vista. Beh, in questa situazione in cui, come sai, la borsa ha bocciato la manovra del governo, almeno secondo alcune interpretazioni, risplende certamente il signor Scilipoti. Questo temevo, perché appena ho sentito la musichetta subito ho capito. Il quale ci riferisce nel weekend che ha intrapreso la strada di Sant'Agostino. No. Sì, sì, la strada di Sant'Agostino. Il dramma è che Sant'Agostino non può replicare, capito? Scilipoti che hanno detto altro, mascalzone, delinquente, farabutto, traditore, hai permesso a Berlusconi di vivere, Berlusconi il peggio in assoluto, ma nessuno si è posto il problema se in un momento particolare come il 14, ci voleva più coraggio a dire sì o a dire no, Scilipoti se n'è posto il problema e ha detto io so che intraprenderò la strada di Sant'Agostino, che sarà piena di spine, ma mi ricordo anche altri passi del Vangelo, più dura è la strada, più vuol dire che ha valore il tuo lavoro. Ma cosa fa? Cita anche il Vangelo? La citazione del Vangelo fa? Di Sant'Agostino. Ma cosa fa? Ma va in giro a citare il Vangelo? Ci sono altre chicche in realtà. Siccome c'è un ospite che ci sta aspettando, ve ne offro solo una al momento. Che è una cosa un po' omofoba, devo dire, da parte di Scilipoti. L'olista che avete mai visto procreare un uomo e un uomo? No, questo no, è normale. Scilipoti non ha contrarietà nei confronti di nessuno. Ognuno è libero di stare uomo con uomo e donna con donna, ma la famiglia è quella composta da un uomo e da una donna e non dobbiamo vergognarci nel dirlo. Poi puoi fare quello che ritieni, ma non puoi sovvertire le regole del gioco e le regole della natura. Hai mai visto procreare tu un uomo e un uomo o una donna e una donna? Ma perché si arrabbia così tanto su questo argomento? Sovvertire le regole della natura! Perché si arrabbia così tanto? Ma con chi se la prende poi? Non puoi sovvertire, cioè è chiaro che è... un tour vabbè, personale. Vabbè. Tutto c'è finito, anche la lo questione sai, di Papa, no? Tutto finito. Da discutere e Papa, soprattutto però non Ratzinger, non Ratzinger Papa, ecco, Alfonso Papa Alfonso. E la questione dei balletti di Bossi, che un giorno dice una cosa, un giorno un'altra. Io dico questo anche sì. Questo a quei leghisti che dicono quello che dice Bossi è la mia, no? La mia Bibbia, è oro colato. Se Bossi mi dice che ho la giacca di colore marrone, ma in realtà io ce l'ho bianca, dico che è marrone, te lo ricordi, signor cosa, Boni, no? Signor Boni, presidente della Regione Lombardia. E adesso come fanno? Perché un giorno Papa va arrestato, un altro giorno no alle manette, adesso di nuovo arrestato. È un dramma, dramma per la Lega. Gli conviene non dichiarare nulla e aspettare la fine. Paolo Guzzanti, buonasera. Dov'è? Carissimo. Dov'è Dove si trova? Mi trovo a casa mia a Roma scrivendo un articolo per il giornale. Cosa sta scrivendo Molto per bene. Il giornale? Sto scrivendo un articolo che deriva dalle mie impressioni che ho avuto ieri sera. Io ieri sera sono stato a Viareggio a presentare il mio libro Gnottocrazia. Ormai lo sto portando in giro da parecchi mesi ed è un libro stravecchio a questo punto, perché troppe cose nuove e diverse sono accadute. Però, scusi, ma nonostante la sua riconciliazione tra virgolette con Berlusconi, ma lei porta ancora in giro questo libro? Sì, ma io sono di questo libro convintissimo. Tutte le critiche che ho fatto a Berlusconi, anche le più dure, sono perfettamente valide. Non ho mai fatto e non farò un passo indietro. Ritengo soltanto che in questo momento, in mancanza totale di un'alternativa politica a Berlusconi, avendo io lavorato per quell'alternativa politica, ho cercato di costruire questo terzo polo, ho creduto nella possibilità che Fini potesse fare. Poi non ci ha creduto più? No, e poi i fatti, non è un fatto di fede, no? Abbiamo votato sta sfiducia del 14 dicembre, che è stata una sconfitta, e poi dopo non si è creata una maggioranza, non si è creata una leadership. Se oggi si dovesse andare a votare con elezioni anticipate, penso che questo paese si troverebbe molto peggio di come si trova a causa della nota crisi finanziaria. Quindi possiamo dire, Guzzanti, due punti, continuo la mia battaglia contro la mignottocrazia. Contro la mignottocrazia, contro l'amicizia con Putin, con la Russia di Putin, quella con Gheddafi ormai è finita a bombe. Si è passati dall'amicizia alle bombe, insomma, no? Berlusconi bombarda Gheddafi, ma se ne rammarica, no? Per cui... Senta, a proposito di cose internazionali, ma Prodi, qualcuno mi suggerisce che lei è un meraviglioso imitatore di Romano Strepitoso, Prodi. Strepitoso, il più grande imitatore. Meglio di forse meglio di suo figlio in questo campo. Questo è assolutamente falso. Non è vero. No, ma adesso non mi stimolate queste ma come non la stimoliamo? No, professor Prodi? Professor Prodi, ma è vero che lei farà un programma per la 7, così come si legge sui giornali? Chi? Lei, professor lei, Prodi? Lei, professor Prodi. Gira il suo nome. Professor Prodi. No, guardate, non lo so, e adesso io capisco la voglia di ruzzare, di giocare. No, l'ho visto piuttosto che Prodi si sta dando... un certo ritorno in campo, c'è una corrente d'altra parte che lo vuole addirittura al Quirinale nel caso in cui il centrosinistra dovesse vincere le elezioni, eccetera eccetera. Poi voglio dire, Prodi, contro i quali io politicamente mi sono battuto per quanto ho potuto, ma gli va riconosciuto che è stato il cioè lei lo voterebbe al Quirinale, cioè ce lo vede no, bene? No, assolutamente no, non ce lo vorrei per niente, sono totalmente contrario. E Berlusconi come lo vedrebbe al Quirinale? Come io vedrei Berlusconi al Quirinale? Sì. Ma anche lì mi pare che, soprattutto mi pare, spero che sia un problema che non si pone, perché lo stesso Berlusconi ha riconosciuto che non è proprio il caso. Cioè lei la pensa come Feltri, che il Quirinale sarebbe invaso con i corazzieri che inseguono le donnine da un capo all'altro del Quirinale? Insomma, questi sono... Berlusconi quest'anno quanti anni compie, non ricordo più. 76 forse. 76, sì. Insomma, c'è il settennato. Non scendiamo così in dettagli. Cioè in che senso? Scusi, perché mi ha chiesto l'età? No, voglio dire, spero, a un certo punto finisce l'attività sessuale, le dice che finisce. Non abbia più voglia di queste serate così allegre come quelle che lo hanno portato sulle prime pagine, nelle aperture di giornali e telegiornali di tutto il mondo. Cioè, ma lei è ottimista su questo oppure è pessimista conoscendo, cioè che queste serate possano finire? Ma diciamo che l'argomento cui ho scritto e detto tanto comincia a appassionarmi di meno rispetto a problemi un po' più urgenti, diciamo, certo. Io spero che la pianti, che devo dire, spero che non diventi più notizia, più che altro, che Berlusconi faccia nella sua vita privata tutto quello che ritiene di fare, ma che la sua vita privata non diventi un fatto pubblico. Diventa un fatto pubblico, allora, essendo pubblico, sottopone ai giudizi pubblici, e io ne ho espressi, e se volete li riesprimo un'altra volta. Ecco, ma ci sono notizie di un ravvedimento? Da questo punto di vista, ci sono notizie, secondo lei, che conosce segnali di un ravvedimento? Trovo la domanda priva di background. Non vedo la ragione, non lo so, non ho né strumenti né titoli per fare affermazioni. Ma perché non lo sente più? L'ultima volta che ha sentito Berlusconi quando è stata? Sentito? Sì. L'ho visto alla Camera quando è venuto il giorno della votazione della fiducia, l'ho visto come tutti. E dopo? Siccome avevo saputo che si era fatto male con questa caduta nel bagno, gli ho chiesto come stava, e anche a me, come poi a tutti, come si è visto nelle sequenze, ha mostrato il bozzo. Stava male, tra l'altro, mi ha fatto un po' la stessa impressione che mi ha fatto in video, allora non da Dio, quando ebbe il Duomo in faccia, la sofferenza fisica, e questo mi colpisce sempre in chiunque, quindi gli ho augurato, come gli auguro, non sono pronta a guarigione, cioè, mi ha fatto pena, ecco, devo dire, ho visto una persona che aveva avuto un colpo fisico, quindi questa è stata l'ultima volta in cui l'ho... Va bene, abbiamo il traffico, torniamo subito dopo il traffico con Paolo Guzzanti, che, lo sai, Parenzo, ora è nel gruppo che si chiama Popolo e Territorio. Popolo e Territorio, veramente? PT, come PT. Mi è venuto in mente. Eh? Ho detto, non so come gli è venuto in mente di dare questo nome. Ecco, bravo, parliamone dopo, come Guzzanti. Gli è venuto, chi è venuto in mente, Guzzanti? A chi è venuto in mente questa roba? Lo ignoro, io non lei subisce, basta. È un nome osceno, diciamolo subito. È un nome osceno, assolutamente demenziale. Popolo e territorio. Questa nostra destra non cessa, e ogni volta che può, di farsi degli autogol, darsi i calci nei coglioni, mandare avanti i scilipoti, farsi ridere dietro, pernacchiare, proprio questo è uno dei disastri della politica italiana. Sì, una cosa incredibile, in questa cosa Popolo e Territorio. Viene voglia di iscriversi, no? Cioè, quando uno dice voglio prendere la tessera di Popolo. Tu dici, dov'è la sezione? Dov'è la sezione di Popolo e Territorio? Sì, ma è tutto finto, lo sa lei, Guzza? Lei è in quel gruppo, ma lo sa che è tutto finta questa cosa, di Popolo e Territorio, cioè questo gruppo è un gruppo messo su. Popolo e Territorio. O no? Popolo. Messo su, no, è una cosa che vuol dire, è una cosa finta, cioè sono persone che non si parlano tra di loro, non c'è un collante comune, è tutta una finzione. Ma la finzione non... No, Popolo e Territorio, un dico. Di persone che stanno lì, quindi questa non è una finzione. No, ma che non si parlino, beh, io personalmente non ho molto da dire. Partecipai a una prima seduta, chiamiamola così, nel mese di, credo, di febbraio, sì. Vedi l'aria che tirava nel tipo di dibattito, e poi, e che ha fatto poi? E da allora mi sono ben guardato dal partecipare. Meraviglioso. Beh, insomma, cioè io veramente sto lì e voto liberamente, perché certo, non voto sempre come prescritto, e così seguiterò a fare, ma diciamo convinto del fatto che allo stato attuale, in mancanza di alternativa, è veramente responsabile come l'effetto, cioè come la puzza sotto il naso, le voce con la puzza, no, con turandosi il naso, turandosi, no, il naso. Turandosi il naso, no, sì, turandosi direi il naso, che la metafora forse più turandosi il naso. Turandosi il naso, la metafora più perfetta è un po' come tu sei alla stazione, no? Sì. Ti scappa la pipì, però dici no, i gabinetti della stazione non mi piacciono, e ci entri per forza, però, perché la pipì la devi fare, non è che puoi farla per strada, no? Quindi vai in un gabinetto che puzza, dici c'è solo questo per ora. Sì, ma seguendo questa tua metafora scatologica un po' più avanzata, sì, si potrebbe pure dire che tuttavia ci sono dei casi in cui i cessi fanno veramente tanto schifo che uno preferisce andare nei giardinetti, poi, insomma, ma questo però i nostri ascoltatori... Ma il cesso sarebbe l'attuale centrodestra, diciamo la verità, o no? No. Come il cesso è lo stato... Intanto Cesso seguiva solo la metafora, sì, certo, la metafora. Però un attimo, torniamo subito su queste cose, su questo discorso, come molto dire, alto. Augusto, che però è in realtà molto concreto, dopo il traffico. Molto bene. Solo cuore, un'unica idea, per per un'Italia ancora tua, ancora mia, per patria e figli, perché ancora verrà. Conosce questa canzone, signor Guzzanti? No, non la conosco. È l'inno di Scilipoti, del movimento di Scilipoti. Una cosa pazzesca. Una cosa pazzesca. Voi fate quello che volete nella vostra trasmissione, non vi biasimo se citate la persona in questione, ma siccome io ne ho un po' i coglioni pieni di tutta questa storia, gradirei non essere io personalmente coinvolto, ma non, no, per carità, non ne posso francamente più. Ma le fa un po' schifo, diciamo la verità. Ma non ne può più di che cosa, di parlare di Scilipoti, di tutta sta roba. Sì, sì, è una, è diventato ma com'è che cita Sant'Agostino? Cita Sant'Agostino, cita Dio di continuo. No, guarda, non ripeto. No, è una cosa schifata. È schifato, no, no, Guzzanti. Che ha ragione, è schifato. È persona seria, Guzzanti. È schifato, è schifato. Senta, no, ma perché poi lui mi guarda anche in cagnesco, siccome io lo dico, lo scrivo, lo ripeto, lo sto dicendo adesso a voi in questo momento, che questa impronta scilipotica a questo gruppo è un tale disastro che io penso seriamente che se continua io me ne vado, io non posso stare in un posto dove sono sottoposto io alle conseguenze di questa centrale nucleare sulla Mata che emette radiazioni, che è l'incontinenza verbale di questo signore, per carità, che fa quello che gli dice la testa. Però no, a lei non va di essere identificato con Scilipoti, è un danno d'immagine per Guzzanti, o no? No, questo è diventato un paese veramente. Possiamo andare un pochino oltre questo? Sì, no, chiudiamo questa parentesi. Poi voi tornate, ma io francamente non vorrei giocare. No, ma diciamola tutta, ne ho i coglioni pieni. No, no, no, però diciamolo tutto, appunto. No, ma no, per carità, però si capisce che lei ne ha, come dice, che ne ha, come si direbbe, come insomma, si direbbe in modo molto molto spiccio. No, ne ho le palle piene, lo posso dire in maniera molto molto, molto esplicita, perché a parte del linguaggio comune. Ma perché Berlusconi ci va alle conferenze stampa, però, la presentazione del libro? Lui, devo dire che gli tirerei una scarpa in testa quando fa queste cose, non è escluso che una volta o l'altra lo faccia. Ma a chi? A Scilipoti o a Berlusconi? No, a Berlusconi. No, in questo caso a Berlusconi, il quale non trascura la più piccola delle occasioni per farci del male, certo, intendendo tutto quel popolo disgraziato, liberale, che cerca annaspando di radunarsi e di fare ancora qualcosa, e si becca delle scilipotate in testa. Cioè, fa più male a Berlusconi Scilipoti della Daddario. Questa forse è la sintesi giornalistica per chiudere questa lunga parentesi. Ma sa, queste cose vanno a ondate. C'è stato il momento della Daddario, adesso c'è il momento di Scilipoti. Tra l'altro pure queste cose che sento dire da Dario, che lei ci crede a queste ma no, ma lì mi pare chiarissimo, io la Daddario la voleva addirittura candidare lei quando era liberale. Non è esattamente così. Vabbè, facciamo finta che sia così. Io l'ho detto, se sei una donna che ritiene di essere stata messa in una posizione di donna in questa vicenda berlusconiana, forma mettere con le donne che si battono per il recupero della loro dignità, buttati in politica, sì, fai sì. Politica, questo lo dico, sì, sì. Poi falla dove te pare, insomma. Io allora ero vice segretario del Partito Liberale e disse insomma, questo balletto della Daddario due anni dopo, questa sorta di nuove dichiarazioni della Daddario in cui dice sono stata ricattata, lei ci crede o no? Francamente io non credo che sia stata ricattata, perché cioè ricattata, è stata costretta a ricattare Berlusconi, in realtà questa è l'ultima versione, costretta. Ma lei è stata sempre molto nebulosa su questo punto, anche parlando con me, perché parlammo per molte ore, fu una cosa, anzi poi è fluviale, torrenziale, la Daddario. Confusa anche, no? Molto confusa. No, ma insomma lei disse che era stata, si sentì forzata ad andare a raccontare quel che era accaduto, perché poi lei non è che nega quello che è accaduto, lei dice che è stata strumentalizzata, e vabbè, sarà stata strumentalizzata, ma insomma il punto è che quel che accade accade. Poi e i fatti restano, no? È importante sto fatto della Lei dice i fatti restano, no? I fatti restano. Poi adesso siamo alla discussione se i fatti avvenuti e detti furono portati in giro perché questo faceva come, può darsi benissimo, e ne ripeto, oggi. Però lei dice ha letto parlando, con, alla fine con, ha letto con Berlusconi, ci andò, quello nessuno lo può negare, perché lì ci ma sono. Ma non lo nega né Berlusconi né lei, e difatti non è una notizia, e poi non è questo il punto, perché il punto allora fu il fatto che lei, essendo stata appunto una escort, cioè una prostituta, se Berlusconi sapesse o non sapesse che era una prostituta, sì, che gliela offriva, e insomma, adesso direi quello che, siccome tu mi hai chiesto che cosa sto scrivendo per il giornale, sì, io sì, ritengo io, che ci sia qualcosa di più importante e ma grave, questo non c'è dubbio, perché quando io sono andato a parlare ieri sera a Viareggio appunto di Daddario, ma no, non parlavo della Daddario, ma della mignottocrazia di queste vicende qua, ho trovato una folla di gente, certo in una regione, in una città rossa come Viareggio, la Toscana, che non gliene a cui non gliene fregava assolutamente più nulla di tutto questo, e che è in uno stato pre-insurrezionale. Addirittura. Bello. Ma sì, sui costi, non vuol dire che stanno per passare alle armi, ma voglio dire che gli italiani... Cioè, coi forconi sulla questione della casta? Eh sì. E questa storia della casta e dell'odio profondo, io ero lì, siccome sono un parlamentare, Campi, non gliene fregava niente di quello che io volevo dire. Io come parlamentare sono stato giustamente preso a bersaglio perché c'è stata la questione della manovra economica in cui era stato annunciato il taglio. E invece poi non si è fatto nulla, diciamo. Di cosa di cui noi singoli parlamentari non sapevamo un accidente, perché tutto questo è avvenuto tutto è avvenuto alle nostre spalle. E ti hanno insultato? Che è successo, Guzzetti? Ti hanno insultato? Che è successo? No, ma lascia perdere, non è questione degli insulti, mi hanno anche insultato, ma sono abituato a questo e non mi offendo affatto. Mi interessa, mi è interessato invece molto vedere proprio il fenomeno politico. Sì. Sta accadendo qualcosa di più radicale e più importante, di cui vedremo presto, credo, gli effetti, di quel che accadeva nel 92 con Mani Pulite e quelle, diciamo, le monetine a crack. Ecco, ne parleremo dopo il giornale radio 800 24 00 24, caro Parenzo, sì? Perché anche il popolo del PDL, nei blog, sul web, quelli che si esprimono liberamente, sono scatenati. Non solo contro i tagli alla politica mai realizzati, in primis, ma anche sulla questione della manovra finanziaria. E te credo. Danno del socialista a Tremonti, basta con questo Tremonti socialista, dicono, scrivono. Beh, non è un insulto, Tremonti è stato socialista. Quindi. Le promesse di Berlusconi, le promesse liberali di cui parlava prima Guzzanti, mai realizzate. A dopo. Siamo qui 800 24 00 24, cari ascoltatori e caro Parenzo. Bene, bene, bene. Siamo sempre in compagnia, fra poco ci ricollegheremo con Paolo Guzzanti, no, è già con noi. Ottimo. Sono qui. Eccoci qui, vogliamo sentire insieme, caro Guzzanti. Intanto non so se abbiamo dato questa notizia di questo giornalista morto, trovato, di News of the World, incredibile, l'afferra, almeno così leggo sui siti. Cioè, che è successo? Mardo, è stato trovato morto un giornalista di News of the World. E vabbè, intanto sentiamoci i titoli del TG3, su. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belinguer. I mercati bocciano la manovra, meno 3%, Piazza Affari, male anche le altre borse europee, ma Milano è la peggiore, titoli pubblici ancora nel mirino. Lungo colloquio al Quirinale tra Napolitano e Berlusconi, che stasera incontra Bossi, al centro rimpasto e rilancio il governo. Taglia la politica, il governo ci prova con la riforma costituzionale, il PD pensioni dei parlamentari da subito calcolate come per i lavoratori. Mercoledì seduta straordinaria del Parlamento britannico, il Premier conservatore dovrà spiegare i suoi rapporti con l'impero mediatico di Rupert Murdoch. La nuova giravolta di Bossi, che torna a parlare di arresto per Papa, e mercoledì sempre più incerto l'esito del voto alla Camera. Si uccide nel suo ufficio al San Raffaele di Milano Mario Cal, braccio destro di Don Verzè, era stato interrogato sul deficit milionario dell'ospedale. Respinte le richieste della difesa di Berlusconi per spostare il processo Ruby al Tribunale dei Ministri, per Ghedini gravissime violazioni di legge. E avete sentito, mentre ricordiamo sempre il numero, questa è la Zanzara, senza dubbio, 800 24 00 24, le giravolte di Bossi. Io faccio un'invocazione al popolo della Lega che ci ascolta, spesso numeroso, silente, ogni tanto arrabbiato qui alla Zanzara. E, insomma, come si fa a seguire, anche se uno dovesse seguire il capo, no? Sì. I leghisti seguono molto il capo, vero Guzzanti? No, piuttosto fideisti. Hanno una cosa fideistica. Tranne Maroni, mi pare, i maroniani seguono meno il capo. Però, insomma, il popolo della Lega segue molto il capo, no? Si affida molto al carisma, ancorché un po' segnato, di Bossi. È segnato, però, perché non è più così. L'abbiamo visto la domenica di Pontida, che abbiamo tutti assistito. Sì. C'era una grande fronda di base che addirittura ha costretto Bossi a dire l'opposto di quello che aveva cominciato a dire. E beh, non è la prima volta, per esempio, e non è stata la prima volta, perché adesso faremo ascoltare al popolo della Zanzara, invece, che non è identificabile nel maniera della Zanzara. Popolo della Zanzara. Ascolti, Paolo Zanzara, popolo della Zanzara. Le giravolte di Bossi. Iniziano così le giravolte di Bossi sulla vicenda Papa. Voteremo a favore dell'arresto. Il 15 luglio, sentite. Alle 12 c'è la riunione della Giunta e quindi oggi bisognerà votare per forza. La Lega ha deciso cosa fare. Voterete contro? Contro l'arresto. A favore dell'arresto. Capito poco, non si può fare la voce di Bossi perché sembra che uno è politicamente scorretto perché però del primo Bossi si poteva fare. Manette mai, prima il processo, 16 luglio. Papa, la vogliono mettere in galera? Beh, sono convinto che le manette mai. Sono convinto che uno deve fare prima il processo. Prima facciano il processo e dopodiché si ha commesso i reati, paghi. Il giorno dopo la Lega voterà per l'arresto in aula. La Lega vuole votare per il suo arresto, questo ve lo dico subito. In aula penso che la Lega voterà per l'arresto. Vabbè, lascio a voi ogni commento perché è evidentemente è indice anche di una certa difficoltà politica su questo tema. Non c'è dubbio, voglia di smarcarsi e nello stesso tempo invece la dare fedeltà risposta, Berlusconi. Certo. A proposito, Guzzanti, lei come voterà mercoledì? Dunque, io tendo a votare per l'arresto. Voterà per l'arresto? Ho una riserva, perché bisogna anche spiegare alla gente che mai il Parlamento della Repubblica, i parlamenti, mai. Dalla fine, dall'inizio della Repubblica ad oggi, ha votato per l'arresto di parlamentari se non per fatti di sangue. Cioè ha votato l'arresto soltanto... in casi in cui se lo si chiedeva per omicidio e insomma, fatti di sangue, mentre per una convenzione che non è scritta ma è operativa, il Parlamento ha sempre fatto quadrato sul principio che i parlamentari non possono essere arrestati per altri eventi. Allora, naturalmente, se si voterà per l'arresto di Papa, questa sarà una prima volta. Sarà la prima volta in cui il Parlamento della Repubblica fa arrestare un suo membro per fatti di tangenti, soldi, truffe, tutto quello che vogliamo. La conseguenza sarà che si romperà in questo caso quel patto. L'ultima volta ho letto che è stato negato l'arresto di un deputato della sinistra, non so di quale sinistra, ma era stato chiesto e difatti il PDL ha detto: oh, ma guardate che noi ve l'abbiamo salvato, ve lo ricordate? Tedesco? Adesso, no, Tedesco è al Senato, è ancora pendente. Allora, se si spezza, se si rompe questa tradizione, bisogna sapere anche a che cosa si andrà incontro. Si andrà incontro, cioè, ad una preminenza delle decisioni della magistratura sulle decisioni delle Camere. E questo farà magari molto piacere alla maggior parte degli italiani, che diranno: sì, finalmente, arrestateli, smetteteli in galera. E questo soddisfa il palato facile e immediato. Io su questo ho, come tutti i parlamentari, e non per motivi personali, una preoccupazione, perché sbracare completamente di fronte al principio che la magistratura comanda è a mio parere, un rischio per il Parlamento. Però mi scusi, uno detto, io credo che voterò per l'arresto. Ah, è meraviglioso. Ma perché questo caso? Perché il caso Papa è più grave di altri? Perché oggi i tempi, prima ci siamo lasciati, prima del giornale radio, mentre io dicevo, tu mi pare che mi contestavi, cioè addirittura, io dicevo che vedo nel paese una situazione pre-insurrezionale, cioè vedo un furore, una indignazione nei confronti della casta, del Parlamento, che è talmente diffusa, è talmente dura ed è impermeabile a qualsiasi ragionamento, da rappresentare oggi l'elemento protagonista della vicenda politica. E ho poi letto il fondo di Scalfari di domenica, in cui si dice chiaramente... Ancora ce la fai a leggerlo tutto? No, ti leggo, non ci penso per niente. Solo l'incipit. Ma si dice che per uscire dallo stallo, cioè dal fatto che il governo legittimo non se ne vuole andare perché ha i numeri nel Parlamento, è necessario un più vasto concorso di popolo e di istituzioni, ciascuna nell'ambito della propria Incita alla rivolta, secondo te? Quindi dice la classe dirigente, le forze sociali, se pensi i sindacati, poi la società civile, sono chiamate a dare un fondamentale contributo. Ecco, ma Paolo Guzzanti, parlamentare, diciamo, di area PDL, anche se adesso in Popolo e Territorio, ha paura... parlamentare di Popolo e Territorio. Di Popolo e Territorio, insomma, di area PDL, centrodestra, diciamo. E ha paura di questa... Ho duello, però capisco. No, perché lui insiste, abbiamo già dato su Popolo e Territorio. No, io voglio troppo bene a Guzzanti, perché è quello che... Non ce lo vedi proprio. Non ce lo vedo. Il solo pensiero di vedere Guzzanti in Popolo e Territorio ti fa male. Perché per me è un maestro di giornalismo, veramente, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, anche a Tetris, nelle edizioni passate, quindi voglio veramente bene. Io so, adesso divertiremo poi ancora di più in futuro. Io so, ecco, quindi l'idea che lui appartenga proprio al territorio mi manda i matti. Ecco, quindi... però anche a me, però, come anche a lei, però allora esca la Popolo Territorio, torni al PDL. Ma no, scusa. Ma sai, non è questione del nome, insomma, qui c'è, purtroppo siamo contaminati dal pagliaccismo. Ecco. Mentre la situazione è realmente tragica. Ma scusa, perché non torna nel PDL? Nel gruppo. È tragica, ma è risibile, insomma, mentre non ma è non mai seria, sì, sì. È difficile prendere sul serio. Voi avete tutti perfettamente ragione a scilipotare, a prendere per il culo questo nome che è fatto per essere preso per il culo, e quindi fate benissimo. Però vabbè, non c'è solo scilipoti, evidente che noi sappiamo che non c'è solo scilipoti, però lo sappiamo. Ecco, insomma, io vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che questo paese sta ballando sul baratro, e che bisogna dare delle risposte anche demagogiche, anche di pura facciata. Ma lei che cosa farebbe? Non è troppo poco? Adesso c'è questa cosa della riforma costituzionale, ma insomma alla fine si invocano i tagli della politica da tanto tempo e non si fa nulla. Guzzanti, questa è la realtà, perché poi alla fine siamo sempre lì. Perché per esempio ricordo a me stesso, che nella legislatura 2001-2006 fu varata e votata una riforma costituzionale che prevedeva taglio degli... Ma è vero, però era all'interno di una riforma, era all'interno di tutta una riforma costituzionale che poi è stata bocciata. Che fu portata al referendum degli italiani che la portarono. Ma insomma le province, Guzzanti, qui si promette continuamente il taglio delle province. Ma sono di fatti, però tutto bisogna anche sapere. Io sono per l'abolizione delle province dal 1970. Oggi sul tavolo c'è una... Vorrei ricordare che se chiudiamo le province ci saranno 68.000 famiglie sul lastrico. Ma non è vero, allora, perché poi alla fine nessuno licenzia nessuno. Allora il costo della politica ci dobbiamo dire... Vi rendete conto che gli italiani sono convinti, la maggior parte degli italiani è convinta, sì, e vaglielo a togliere dalla testa, che noi parlamentari giriamo con l'auto blu e che senatori e deputati scorrazzano per l'Italia con l'auto blu. Beh, qualche piccolo privilegio c'è però, eh. No, sono soltanto i membri del governo. No, sì, ma al di là dell'auto blu qualche piccolo privilegio in generale c'è. Non qualche è che non presidente c'è di commissione magari ogni tanto. In generale i viaggi gratis, questa roba qua. Quando ero presidente di commissione veramente non ho avuto nessuna auto blu. Andavo a lavorare in tram col taxi, con la mia macchina, con la 500, non ho mai avuto auto. Senta, adesso abbiamo la borsa, però mi viene in mente un'altra cosa, la questione dei ministeri a nord. Galan, liberale Galan, ha detto che questa questione è una puttanata intercontinentale. Lei come la definisce, Guzzanti? Posso rincarare dicendo che è una puttanata galattica. Galattica, galattica, benissimo. Possiamo divertirci così. Perché siamo al 18, mancano 5 giorni. La logica è che la Lega deve fare i suoi. Perché l'avete visto il popolo della Lega, no? Sì. Se tu dici adesso dobbiamo andare avanti con questo, gli fanno secessione. E allora Bossi deve dire, va bene, allora manette. E poi Berlusconi gli dice, dai, sei matto, le manette, guarda, qui allora dice, gente, manette, soltanto dopo il processo. E allora il popolo della Lega dice, no, basta, Roma la dona. E quello deve cambiare. Ci sono oggi, ripeto, è il momento in cui o si dà al popolo della Lega da una parte e dall'altra al popolo grigliesco, travagliesco, un segnale, dei contentoni, dei contentini, oppure dimezzate, toglieteci lo stipendio, togliete questo cazzo di come si chiama lì, indennità, il vitalizio. Fate qualcosa di immediato e subito, ma anche perché è giusto. E allora adesso, dopo la borsa, voglio capire da Guzzanti in due minuti che cosa bisogna fare subito, secondo lui. Forse la testa di Papa, ha detto, offrire la testa di Papa per bloccare la rivolta popolare. Questo ha ragione. Tra poco. Siamo qui con David Parenzo, che mi ha lasciato come sempre ogni lunedì per incamminarsi verso Assago. A piedi, senza corda, senza venite a prendermi. E aia. Senza 8 minuti, porca miseria. Beh, 8 minuti è normale, sei in diretta, ti voglio ricordare, qui alla Zanzara. Beh, ho detto miseria. No, ma solo per ricordarti, magari potevi avere l'impressione di essere minuti. Con me al telefono. 8 minuti di attesa, ma non come c'è mai, problema. Scusi, come mai 8 minuti? Ma è normale, 8 minuti di attesa. È normale. Poi estate. Chiedi se conosce la Zanzara o che ne pensa della politica, dei costi della politica, così tanto per dimostrare, chiedi a qualcuno cosa ne pensa. Possiamo della politica, tante, della casta. E la Zanzara, Radio 24, lei che ne pensa, le grandi inchieste di Parenzo, dei costi della politica? No, non lo so. No, non lo so. Ah, non è italiano lei? Sono italiano. Ma scusa, hai beccato l'unico rumeno. Ecco, ma anche in Romania ci sono problemi rispetto ai costi della politica. È una nota democrazia rumena, no? Sì, ci sono. Adesso interroga un italiano, però intervista un italiano, abbi pazienza, scusa. Intervista un italiano, il razzismo di Cruciani. Ma no, un italiano perché ne sa di più. Un italiano. Perché ne sa di più, cioè, semplicemente per questo, perché magari... Italiano? No. Che ne pensa dei costi della politica? Costi della politica. No, italiano. Come? Abbiamo capito che c'è grande indignazione. Che giustamente alle 19.38 sulla metropolitana di Milano ci sono molti extracomunitari. È il paese che lavora, il paese reale. It's Italian radio. Bonsoir, madame. Where are you from? From Holland. From Holland. Oh, great. You like Italy? Yes. Welcome in Rome. In Rome? Yes. No. Milano. Milano, è vero, Milano. Olanda, Olanda. La Zanzara, do you know Zanzara? Zanzara? I don't know. Mosquito. Oh, mosquito, yes. Mr. Cruciani. Do you know Mr. Cruciani? Cruciani? No. You know Mrs. Daddario? Daddario. Daddario. Berlusconi, magari chiedi Berlusconi. Berlusconi, do you know Berlusconi? Yeah. Why you laugh? Why? You see, he's a girl lover. Come? Girl lover. Fai tradurre a Guzzanti che sa bene l'inglese, scusa. A girl lover. È un amante di donne. A girl lover. Capito, Guzzanti? Lover, questa è la traduzione. Guzzanti, girl lover, che è amante delle ragazze, no? Girl lover. Mi piacciono le donne. Beh, ma all'estero è conosciuto così ormai, per colpa, probabilmente per colpa sua, no? Giusto, Guzzanti? Per colpa sua. No, no, non c'è niente da fare. Vabbè, torniamo un po' in noi dopo questa incursione. 5 minuti. Vabbè, non c'è, adesso non è, ci puoi assillare col fatto che mancano 5 minuti alla metropolitana. Guzzanti ci voleva spiegare rapidamente, di fronte a questa marea montante, come dice lui, perché lo ha verificato anche andando in giro, dell'anticasta, dell'antipolitica, cosa bisogna fare? Guzzanti deve essere veramente... No, c'è una cosa... Cioè, per esempio, l'arresto di Papa, lei lo vota... E quello, ho detto, questo intanto sarebbe una buona cosa. Anche se spezza un vecchio equilibrio, vabbè, però... ma siccome è un equilibrio impopolare, questo equilibrio bisogna spezzare. Ma c'è un'altra cosa molto importante. È stato messo un ticket di 10 euro sì. a qualsiasi disgraziato che si sente male e va al pronto soccorso. Ma questa è una roba da pazzesca. Allora, questa è una cosa che grida vendetta. E grida vendetta in particolare perché noi parlamentari sì. presentiamo a piedi lista i nostri rimborsi spese per le spese mediche sì. nostri, dei mogli, figli. Date un contributo per questo però, nessuno l'ha detto. Nell'articolo... No, difatti è pura demagogia, noi paghiamo questo servizio con un sacco di soldi. Noi giornalisti, io per esempio uso la Casagit perché ho passato tutta la vita a pagare sì. la Casagit e quindi invece di far gravare le mie spese mediche sul Parlamento le faccio. Ma anche i parlamentari credo che diano un contributo, oggi qualcuno l'ha detto. Sì, lo diamo, ma non importa, qui non si tratta di capire chi ha ragione e chi ha torto su un piano razionale. Bisogna vedere se poi la cassa deve dare sì. delle risposte demagogiche e visibili a tutti coloro che si sentono feriti, e giustamente si sentono molto feriti, e che vedono l'arroganza, i privilegi, gli sprechi, ma più che altro proprio la differenza. È come quando la regina Maria Antonietta non disse, però è passata la storia come se l'avesse detto, il popolo non ha pane, perché non mangiano le brioche? Questo non lo disse mai, però la leggenda vuole. E allora si alzarono le ghigliottine. Qui siamo a uno stato, ho detto, secondo me, pre-insurrezionale. E allora l'altra mossa da fare qual è? La mossa da fare qual è? La mossa da fare è concedere in questo momento tutto alla demagogia, tagliare gli stipendi dei parlamentari, mandarli in bicicletta. Volete questo? Diamolo, facciamolo, è un servizio pubblico che dobbiamo rendere con un modesto sacrificio, a me personalmente non è che non me ne freghi niente, se ti tagliano i soldi che ti arrivano a fine mese ti importa, quindi... Vabbè, lei però li prende pure da un'altra parte, non è che c'è gente che magari piglia solo quello stipendio. Certo, cioè, difatti per questo, io ritengo di dovere dare una soddisfazione a chi oggi deve pagare la sanità con più soldi e se va al pronto soccorso deve pagare, io voglio che questa persona non si senta insultata dal fatto che io parlamentare presento domani una nota spese di spese mediche che mi vengono retribuite al 100%, anche se è vero che io pago una quantità di soldi per questo servizio, ma se si entra nella logica dello spiegare che certo, tutto si può spiegare, ha ragione. Questo è il momento di risposte forti, importanti, etiche, perché la gente è profondamente offesa. Che poi dietro questa offesa ci sia molta demagogia e molta falsità, questo occorre del tempo. E che gesto fa Guzzanti? Che non abbiamo questo tempo. Personalmente che gesto può fare lei? Che gesto si può fare? Ma il gesto che si può fare è che ne so, rinuncio a legge in Parlamento, non è che uno può fare delle cose personali. Io potrei anche dire formiamo una cassa, un deposito dove ciascun membro del Parlamento versa una parte del proprio stipendio, del proprio emolumento ogni mese e mettiamo a disposizione questi soldi e lì possiamo trovare qual è la funzione, per esempio. Perché se tutto viene rimandato a una riforma costituzionale, qui si va alle calende greche, lei lo sa bene. È tutto finito. Difatti bisogna dare delle risposte immediate. Ripeto, senza avere paura di dare risposte demagogiche, perché... A demagogia si risponde, in questo momento si può rispondere solo con demagogia. Beh, bisogna dare delle risposte emotive ad uno stato emotivo. La gente è indignata e l'indignazione è uno stato emotivo molto importante, anche se non è politico. Ma siccome può essere sfruttato dalla politica, come dicevo, persone come Scalfari ci contano, se noi facciamo cadere il governo. Sì. Allora, far cadere il governo, secondo me, in una democrazia parlamentare lo può fare soltanto il Parlamento o le urne, e farlo fuori da questi due istituzioni è un atto di arroganza e peggio. Allora io dico che bisogna prima di tutto placare l'indignazione giusta degli italiani facendo vedere che i politici, questi maledetti parlamentari delle auto blu che non hanno e tutto il resto, sono pronti a dare il loro forte contributo tagliandosi gli stipendi, rinunciando, non so quali prebende, ma rinunciamo, dice rinuncia a Satana, sì, rinuncia a Satana, e diamo sta risposta. Insomma, senta, Guzzanti, in 30 secondi, ma Martino ha detto che questa manovra economica è una schifezza, lei come la definisce? Beh, io non sono un economista, però ho letto che è una manovra economica molto reazionaria, insomma, ed è una molto impopolare ed antipopolare, e questo è un male. Però le tasse, dica qualcosa sulle tasse, Guzzanti, che non se ne può più, come Martino dice qui, tasse. Beh, la pressione fiscale non fa che crescere, ovvio, anche se sono tasse mascherate, perché pure l'aumento del prezzo della benzina sono nuove tasse. Insomma, ho capito che lei si tura il naso, sta nel centrodestra, ma insomma, qui bisogna dare delle risposte, però, capito? Qui non è una questione. Io detesto che la sinistra possa andare al governo senza avere vinto le elezioni. Vabbè, questo non c'è. Quando le vincerà ci andrà. Fino a quel momento e finché il paese non è chiamato alle urne, bisogna dare delle risposte oggi a quello che la gente oggi vuole. E vuole il taglio dei costi della politica. Va dato forte, subito e con sacrifici importanti da parte di noi parlamentari. E poi grazie Guzzanti, Paolo Guzzanti, popolo e territorio, sentiti male, che mi grazie popolo e territorio. Sì, sì, è così, si leva, cioè, hai voluto la bicicletta, adesso pedala, appunto, cioè. PT, se no uno esce e va nel, poi ritorna nel PDL. Perché lei non torna nel PDL, scusi, al gruppo del PDL, fin da quando è stato eletto nel gruppo del PDL, nel gruppo del PDL torna, però deve fare numero, lo so, deve fare numero, ma vabbè. Scusa, no, Guzzanti, non ma... devo fare nessun numero, sono... ma non era, non puoi chiedere di sembra un problema piuttosto secondario. No, vabbè, certo, che dici, Lorenzo? No, dico, non puoi chiedere di cambiare il nome, non so, basta il pomodoro. Basta il pomodoro. Un accidente lì dentro, non sono altre, come dire, altre logiche. Professor Prodi? Professor Prodi? Possiamo vedere cosa è possibile fare, ma bisogna farlo con la lentezza e con la ponderazione lenta, misurata del passo del ciclista di montagna. Vabbè, però qui urgono i provvedimenti, professor Prodi, qui non è che si può andare lenti, bisogna dare delle risposte subito alla crisi economica, al malcontento, o no? Sono provvedimenti ponderati che vanno presi con la calma che richiede il passo della montagna, sia in bici che a piedi. Bene, ma la 7 ci va, professore, alla fine a fare questo programma per la 7, oppure è troppo veloce la televisione? Comincerei con la 3. Grazie a Paolo Guzzanti, un genio assoluto, grazie. 800 24 00 24. Elio da Modena, buonasera Elio. Chi è Elio? Un ascoltatore. Ah, ottimo. Sempre la stessa domanda fai. Vabbè. Ottimo. Elio. Lo so, entrano persone, arrivano. Elio? Marco da Trento. Sì, buonasera. Dica. Senta, io mi riferivo a venerdì, quando l'onorevole Verrin l'avete chiesto. Sì. Allora, per farla breve, Minzolini è dirigente di un'azienda pubblica. Si sa che nelle aziende pubbliche i regolamenti sono più stringenti che in quelle private, proprio perché vengono pagate con denaro pubblico. Allora, non si può andare in giro a dire, ma io compenso quello che prendevo prima. Se qualcuno ha sbagliato, qualcuno deve pagare, deve andarsene. Questo è un paese che ormai... ogni volta che qualcuno viene preso con le mani nella marmellata, bisogna aspettare il terzo grado di giudizio, perché siamo tutti innocenti. Non esiste più l'etica del comportamento personale. Però mi scusi, caro Elio, lì è una questione interna alla RAI. Ora, è vero che c'è pure un'indagine della magistratura, non so di chi, forse della Corte dei Conti, anzi c'è stata un'indagine della Corte dei Conti e forse addirittura potrebbe essere rinviata a giudizio Minzolini per questa vicenda qua della carta di credito. Sì, ma quello si va oltre, io non voglio arrivare. Sì, francamente, adesso le dico, se Minzolini sarà messo d'accordo con qualcuno, evidentemente se qualcuno deve rispondere è l'azienda di comportamenti poco d'accordo. Corretti e poco sono trasparenti. D'accordo, il qualcuno che gli ha fatto il contratto a voce doveva normarlo correttamente in modo da evitare questa cosa. Il problema è che qui né Minzolini o se non è lui, né chi, sì, l'ha, chi l'ha assunto. Comunque lui gli ha restituito i soldi, i soldi li ha restituiti. È un po' comodo. Che vuole che faccia? Vuole che ci sia la ghigliottina per Minzolini sulla pubblica piazza? Che bisogna assolutamente fare? Assolutamente no, però voglio dire, un tedesco, un ministro tedesco, per essere stato scoperto per copiare la tesi, ha dato le dimissioni. In Inghilterra, per lo scandalo delle intercettazioni, sta succedendo un terremoto vero e proprio, Scotland Yard, il, sì, Parlamento riunito. Da noi sarebbe finito con vabbè, insomma, cosa vuoi fare? Un'intercettazione, oh signor, qui lo viviamo quotidianamente, non, cioè, abbiamo più il senso della responsabilità di ciò che facciamo. Sì, ma se le regole sono, come dire, se le regole interne, evidentemente, per quello che riguarda la gestione delle carte di credito, lasciamo perdere i discorsi più generali, si paga, non si paga, la responsabilità in Italia, eccetera, eccetera. Se le regole interne, perché di questo si tratta, sono evidentemente molto vaghe, no, Parenzo, sulla gestione delle carte di credito aziendali. Sì, ma c'è un processo in corso ora, quindi al di là della Corte dei Conti e del fatto che il signor Minzolini, direttorissimo Minzolini, ha restituito quel denaro, c'è un processo in corso in cui il signor Masi, lo abbiamo ricordato venerdì in quella drammatica trasmissione in cui ero collegato dal torpedone, drammatica trasmissione, il signor Masi ha detto delle cose chiarissime su questa vicenda e quindi voglio dire, aspettiamo il processo. Sì, aspettiamo il processo, anche se forse non è questione di processo, sul tipo di rapporto che ogni tanto si instaura, Cadorna, sia la stazione Cadorna della metropolitana, sul tipo Cadorna. Di processo che di rapporto che si instaura tra un direttore e evidentemente un consiglio di amministrazione, un esponente del consiglio di amministrazione, direttore generale, direttore di rete, non so. Va bene, grazie, andiamo a Genova. Anna, buonasera. Messaggio per Bisignani. Un attimo, c'è un messaggio per Bisignani. Messaggio per Bisignani. Cadorna è sulla linea verde. Ripeto, Cadorna è sulla linea verde. Vabbè, Anna da Genova. Ok, mi spiace che non ci sia più l'onorevole Guzzanti, perché io volevo fare alcune osservazioni su quello che lui ha detto, sul suo comportamento, eccetera. Una prima osservazione così molto veloce è che, insomma, è inutile che faccia le ironie su Scilipoti, perché la differenza tra lui, insomma, non è molta. Ah, lei dice non c'è distinzione tra Scilipoti, ma lei sta dicendo una cosa gravissima, signora Anna, che non c'è distinzione tra Scilipoti e Guzzanti, sta dicendo una cosa di una gravità inaudita. È inaudita, e vabbè, l'avete udita ora. E poi un'altra cosa, a proposito di giravolte, avete fatto bene a chiamare Guzzanti, perché lui è esperto in giravolte, quindi ecco. L'ultima, ma sa, alle giravolte c'è sempre una spiegazione, Anna. Non è che certo. Ognuno te la spiega come vuole. Dopo la fiducia, la sfiducia a Berlusconi, e c'era la possibilità di fare il terzo polo, un'alternativa. A un certo punto mi sono reso conto che era più importante la stabilità e che questa alternativa non era possibile, eccetera, eccetera. Infatti, giusto. Cosa vuole che le dico, Anna? Alzo le mani di fronte a Guzzanti, alzo le mani. Sì, sì, ma guardi che per conto mio, proprio per le qualità che ha di intelligenza, eccetera, che avete detto, per conto mio è ancora peggio il suo comportamento rispetto a quello di Scilipoti. Addirittura. Sì. Chiuso questo argomento, volevo dire, sulle ultime cose che ha detto, che si mette adesso a fare il paladino, quali proposte di legge ha presentato per rinunciare, per proporre che vengano aboliti tutti questi privilegi che hanno che a lui e agli altri parlamentari? Volevo chiedergli questo, se lui ha fatto delle proposte di legge per questo. Ma guardi, adesso francamente non credo che abbondino le proposte di legge di Guzzanti per la questione dei privilegi dei parlamentari. Quindi è inutile che faccia del... lasciamo perdere. Solo cuore. Grazie, signora Anna. Aia, ai ai ai. È la canzone d'avvertimento, caro Parenzo. Aia. La canzone di avvertimento che sta per tornare a Scilipoti. Tu quando senti questa canzone, devi sapere che c'è una scilipotata in corso. Lo so, infatti per quello che tremo di già. Allora, punto di riferimento per il mondo, non so a cosa si riferisce. A se stesso forse, Che dici? È matto, lo sai, no? Ormai ce lo siamo giocato, Scili, No, sai, non dire così, non dire così. Ce lo siamo giocato. Se dici così, quando comincia a insultarlo, io automaticamente, per come sono fatto, tendo a mettermi dalla parte sua. Io gli voglio bene, ma ce lo siamo giocato ormai, magari l'estate un secondo me era col caldo. Era così anche prima, non vorrei dirti, secondo me è sempre stato così. Sì. Non lo sapevamo, caldo, ma è sempre stato così. Però. No, ma il caldo. Senti questa, vediamo a cosa si riferisce. perché non l'ho ascoltata prima. Punto di riferimento per il mondo. A chi si riferisce secondo te? A Mandela, che ha fatto 93 anni? O a se stesso? Vediamo questo. Temo a se stesso. Temo. Scivipoti per il mondo era visto come punto di riferimento. Ma Scivipoti è anche quello che ha fatto la battaglia contro l'amianto. Scivipoti è quello che ha fatto la battaglia e una proposta di legge per tutelare tutti coloro i quali abitano nel triangolo della morte in provincia di Siracusa. Si riferiva a se stesso. Non sapevo. Cioè, uno dice... No, il punto di riferimento per il mondo. Sempre, no? Il punto di riferimento per il mondo. Uno immagina chi possa essere, no? Parenzo. Ban Ki-moon, che adesso, so io. Ban Ki-moon, adesso pure te. Cioè, non so. Mandela che ha fatto 93 anni, no? Mandela che ha fatto 93 anni, che ne so, cioè nel passato, esempi ce ne sono Martin tantissimi. Luther King, no, ma Gandhi. Attuali, diciamo. Oggi chi c'è punto di riferimento per il mondo? Ma Obama anche potrebbe essere, beh, no? Sì, uno potrebbe dire Obama, anche se poi è un presidente comunque di un paese. Comunque Obama, certamente Mandela, 93 anni. Chi c'è in vita? Il Dalai Lama. Tanto uno potrebbe... Poi tutto è discutibile. No, Scivipoti, punto di riferimento per il mondo. Hai capito? Gesù Cristo mi ha dato l'intelligenza. Quando sono entrato in politica e prima della politica, Gesù Cristo mi aveva dotato di una cosa importante, che era l'intelligenza e la responsabilità. Allora quel giorno per me è stato difficilissimo, perché ne ho parlato con tutti. Perché insieme che la storia si... Per i senza, ecco, Dio. Però aspetta, perché dimmi, questo dimmi. Che lui ha detto è molto grave. Questa è la diffamazione della religione cattolica. Lui in questo momento, vabbè, dicendo che Gesù gli ha dato l'intelligenza, sta diffamando la religione cattolica. È gravissimo. Sta diffamando la religione cattolica. Per i senza Dio sono un ingenuo, senti. No, per molti diventa quasi incomprensibile. Per quelli che vengono definiti senza Dio, perché ne abbiamo molti. E quando io parlo di questi argomenti, mi dicono che sono fuori dalla realtà, che sono un bambino, che sono quasi un ingenuo. Eh beh, qui è un riferimento a Parenzo, un riferimento diretto a Parenzo. Va bene, vedo che sei impegnato nella metropolitana, sei già entrato. Linea verde, benissimo. Abbiamo la pubblicità e poi riprendiamo con la Zanzara 800240024, collegamento speciale con Bari. Siamo qui, caro Parenzo, alle 20 in punto, 800240024. E beh, caro Parenzo, il sindaco Renzi ne ha combinata un'altra delle sue. Sono le cose che mi fanno entusiasmare a me. Sono le cosa cose che mi rendono Renzi che mi rendono Renzi simpatico, perché sono cose impopolari che gli attireranno e gli hanno già attirato una marea di critiche. Però sono le cose così che sento mie, che mi avvicinano a quest'uomo ormai ai margini del Partito Democratico, superato dagli eventi, un po' ai margini, diciamo, da un po' di tempo è ai margini del Partito Democratico. Comunque lasciamo perdere questa questione. La frase... Se così non gli fai un favore, lo sai, no? No, non gli faccio un favore, però glielo dico con affetto, lo sa anche lui che ha passato un momento di grande slancio, poi la situazione politica nazionale adesso lo ha, tra virgolette, ridimensionato all'interno del Partito Democratico. Questo non vuol dire niente, bisogna aspettare naturalmente gli eventi, però... Cosa ti voglio dire? Quali sono le frasi che ti voglio ricordare? Sono quelle che ha pronunciato in un'intervista a Sport Week, il settimanale della Gazzetta dello Sport. Le frasi sono queste. Larry Page, i suoi punti di riferimento, dice, sono Larry Page e Sergey Brin, cioè i fondatori di Google. Ho visitato la sede di Mountain View e sono rimasto folgorato. Niente badge, campi da ping pong, la parete per l'arrampicata. Mi piacerebbe che al comune di Firenze si lavorasse così. Invece mi ritrovo coi dipendenti che timbrano alle 14 e già un quarto d'ora prima sono in coda col cappotto, pronti per uscire. E chiamarli fantozzi sarebbe far loro un complimento. Una cosa pazzesca. E c'ha ragione. I sindacati sono l'organizzazione più lontana dalla mia generazione. È una cosa spettacolare. Emiliano? Non ci sono, non sono in linea. Non è in linea? Non voglio rispondere alle domande su Renzi. Sindaco? Io la domanda su Renzi non voglio rispondere. Non è che su Renzi. anche i suoi. Avete costruito un bel trappolone? Ma che trappolone? È uscita adesso la cosa. In realtà è uscita sabato. Questa era preparata no, da ieri. Allora, no, no, assolutamente. È una trappola di Renzi d'accordo con Renzi. Come? Io di questo sono certo. Allora, no, la notizia è stata riportata sull'agenzia oggi. In realtà bisognava essere un po' più. Io, tra l'altro, lo leggo sempre Sport Week. Non so perché mi sia sfuggito. Evidentemente ero in viaggio nel fine settimana. Sport Week esce in realtà il sabato. Però le agenzie, guardi, può controllare, non c'è nessun trappolone. Vabbè, signor Emiliano. Voi praticamente mi volete istigare. No, vabbè, questa parte che è cosa buona e giusta da parte nostra, istigare certo, tutti. Togliamoci subito il dente. Questo, anche togliamoci subito. Anche lei considera i suoi dipendenti, quelli del comune di Bari, peggio di Fantozzi? Peggio di Fantozzi? No, allora voglio essere chiaro. Ma così è facile, così è facile. Mio padre uomo di destra, uomo di destra, uomo di destra. Uomo di destra, ha una piccola azienda. E quando i suoi dipendenti, insomma, battevano un po' la fiacca, gli diceva sempre, oh, che mica ha lavorato al comune. Naturalmente io sono rimasto un po' influenzato da queste cose che papà diceva ai suoi dipendenti, però devo anche essere chiaro, poi ho avuto una vita da pubblico impiegato, prima come magistrato della direzione di settore antimafia e poi come sindaco. Ma anche tra gli impiegati ci sono qualche scandalo? Guardi, devo ammettere, devo dire, questo mi pesa, devo ammettere che qui ci sono anche delle persone che lavorano seriamente. Non sono tantissime, intendiamo, però sono talmente brave che reggono la baracca per tutti quelli che non fanno niente. Però non sono tantissime. Non so, se fossero un pochino di più quelli che lavorano, innanzitutto ci sarebbe meno fatica, meno sacrifici per quelli che invece si impegnano. E soprattutto ci sarebbe meno irritazione da parte dei cittadini, perché quanti vedere uno che prende uno stipendio fisso, sì, sicuro, che se si ammala e ha tutte le garanzie del mondo e che poi non lavora, e beh, per un cittadino che in questo momento vive quello che stanno vivendo gli italiani, è un'incazzatura forte. È un'inchiezzatura forte, un'inchiezzatura. È una rabbiatura forte. Io e Renzi non nascondo, abbiamo una simpatia appunto, reciproca. Però lui alle volte sceglie, ecco, come la storia dei rottamatori, anche questa di Fantozzi, è un modo. Sicuramente va sui giornali, però poi la paga dura. Io, però scusi, lei Emiliano, dicendolo in maniera un po' più edulcorata, lei ha detto praticamente la stessa cosa. Adesso non vorrei dire niente. Non è praticamente la stessa cosa. È la stessa quello cosa. Quello che avviene in tutte le banche, in tutte le aziende, in tutte le redazioni. Io sono convinto che anche voi in redazione avete qualcuno che batte la fiacca e potreste dirmi il suo nome, ma preferite evitarlo. Ho capito. Dunque, se ci fossero più meno scansafatiche al comune di Bari sarebbe meglio. Però la concezione del lavoro in Italia è una concezione che va cambiata. Per esempio, le municipalizzate, parliamo delle municipalizzate. Sì, è chiaro che lì il sindacato ha un ruolo enorme, di grande responsabilità, e la pluralità delle sigle sindacali in Italia, che è un indice di democrazia sicuramente, però questo non aiuta a trasformare il sindacato in un soggetto che controlla anche la qualità e la quantità della prestazione lavorativa. Cioè adesso per andare al sodo. È una di quelle cose, per esempio, che in Germania avviene, dove l'unità sindacale, che è un bene fondamentale. Cioè lei sta dicendo che i sindacati se ne fottono della qualità del lavoro. No, perché altrimenti la concorrenza tra sigle sindacali impedisce loro di fare, come si dice, il contropelo ai dipendenti, come probabilmente nel pubblico impiego sarebbe necessario fare anche da parte del sindacato, non solo dei cittadini. Dunque lei sta dicendo che i sindacati nel pubblico impiego in sostanza si disinteressano della questione della qualità del lavoro. Dico che... Lo dica la Emiliano, non lo dica... Io ho letto l'intervista di Matteo. Matteo parla anche del ruolo economico che hanno i contributi che vengono versati ai sindacati, no? Sì. È chiaro che quando il sindacato è in concorrenza con altre sigle per il tesseramento, per conseguire questi finanziamenti, si rischia di concedere un po' troppo ai propri lavoratori, soprattutto quando la condizione di questi ultimi è già di per sé assicurata, perché nel pubblico impiego, diciamo la verità, il rispetto dei diritti dei lavoratori è quasi sempre assicurato in maniera automatica. Senta, ma dunque anche per lei il sindacato oggi, cioè voglio dire, se lei ha di fronte, facciamo il gioco della torre, Emiliano, cioè tra Marchionne e Camusso chi butta giù? Beh, devo essere sincero. Beh, è chiaro. In questa fase tutti e due stanno commettendo un sacco di errori. Ho capito, però tra i due si deve scegliere a un certo punto, no? Per il futuro. Ovviamente per una convenienza politica butto giù Marchione perché non mi vota. Però. Vabbè, ho capito. Però diciamoci la verità. Però se non c'avesse... La concezione che il sindacato, in particolare la CGIL, ha delle relazioni industriali è il contraltare di quello che Marchione ha nel negare i diritti alle volte dei lavoratori, cioè occorre dal mio punto di vista un'assunzione di responsabilità sia da parte lo sai che io ho il busto, ho il busto Emiliano, sai che io ho il busto di classe, sai che ho il busto di Marchione, sai che ho il busto di Marchione a casa, ogni tanto lo lucido, busto, busto da lucidare come nuovo rivoluzionario, se c'è qualcuno. Dai, l'ultima che ha fatto la CGIL e un commento a Emiliano gliela voglio chiedere perché è clamorosa, cioè? Questi lavoratori della Coin che erano stati messi in vetrina a fare finta di essere dei manichini, no? E la CGIL ha detto no, per carità, è indegno usare delle persone vive per far finta di essere manichini, e i lavoratori hanno detto no, vogliamo farlo, capito? C'è una cosa clamorosa questa che è avvenuta proprio a Milano. Sì, a Milano, clamorosa, se non esageriamo, una polemica. Una cosa incredibile, ma di una gravità inaudita. Beh, insomma, adesso proprio una gravità inaudita. La CGIL va un po' portata verso la modernità. Deve abbandonare, diciamo, alcune sue retoriche. Sì. Naturalmente questa operazione non è facile, perché la CGIL è un gigante, un elefante molto complesso, Emiliano, due punti, quale basta, ovviamente CGIL, convivono vecchio e nuovo. E chi ha la responsabilità di portare nel terzo millennio la CGIL è in una bruttissima situazione. La Camusso ha preso un attacco dal segretario della FIOM, è indimenticabile. Comunque lei ha detto una cosa prima. Se devo scegliere di buttare giù qualcuno solo perché mi votano quelli che altrimenti, ma sei proprio sicuro che la CGIL la vota? Sì. Beh, devo dire, dipende un po' da quello che dice Vendola, se Vendola gli dice di non votarmi sono guai. Perché Vendola controlla molto la CGIL, l'elettorato. Ho l'impressione che la CGIL conti molto su Vendola. Su Vendola, un patto di ferro CGL Vendola. Vabbè, abbiamo la pubblicità, poi torniamo con il sindaco di Bari, come avete sentito, Michele Emiliano, che è uno che non ha peli sulla lingua, diciamo la verità, e che dice sempre quello che pensa, più o meno sempre per quello che può dire un uomo politico, ma più degli altri, questo bisogna ammetterlo, più degli altri non ha paura qualche volta di affrontare le polemiche di petto senza timore di essere criticato, e questo da lui ci aspettiamo anche stavolta. Pubblicità. Siamo qui 800 24 0024, caro Parenzo, sempre in viaggio verso Assago, tanto per dare un'indicazione, anche per tranquillizzare la famiglia Parenzo. Al chilometro 615, sì. 615 del digitale terrestre. Bene. Messaggio non per Bisignani, questo. Vabbè, sì. In che collegamento... fa il sindaco Emiliano? Cosa, ma è sempre in comune il sindaco ora? No, sì, punta una carica. Ma alle 8 e 12 cosa fa in comune, il municipio, ancora alle 20 e 12? Sindaco? Beh, non è un fannullone come altri, no? Ma è da solo praticamente. Però devo essere sincero, io sono di una razza un po' particolare, mi diverto a lavorare. Ah, non sì? Ho hobby. Come non ha hobby? E peraltro, onestamente... stasera devo solo andare a casa, quindi non ho niente da fare. Io vivo ancora molto in maniera molto simile a come quando facevo il magistrato, cioè mi faccio i fatti miei, non vado mai a casa di nessuno, non frequento salotti, non mi ubriaco nelle birrerie della città e soprattutto non frequento i locali tipici degli intellettuali di sinistra, e questo ovviamente mi mette sempre in guardia. Perché anche a Bari ci sono locali tipici degli intellettuali di sinistra? Se passano il tempo a parlare male di me, allora io per non disturbarli me ne rimango a casa. Una cosa pazzesca. Quali sono questi locali tipici della gauche? Non li conosco, però li vorrei chiudere tutti, diciamo. E faccio un'ordinanza, sindaco, faccio un'ordinanza. No, non me la sento, ho una radice democratica che anche nei momenti che rimane. Lo sai che il sindaco Milano in realtà viene da una famiglia di destra, diciamo, il padre molto di destra, o sbaglio? No, mio padre era un nostalgico del regime, però quando io mi iscrissi al Partito Comunista, perché anche questo va detto da ragazzo, non fece una piega, perché in fondo evidentemente aveva maturato una coscienza democratica. E in realtà a un certo punto, quando si doveva candidare, c'è stato un momento in cui poteva candidarsi anche per il centrodestra. Diciamo che hanno fatto il diavolo a quattro per candidarmi a destra, e io però ho detto quello che dico sempre in questi casi, chi nasce tondo non può morire quadro, cioè nel senso che Io, se mi fossi candidato a destra, neanche la campagna elettorale dovevo fare, perché Bari è ancora oggi la capitale della destra politica del Sud Italia. Voi immaginate che il PDL qui a Bari prende il 48, il 49% dei voti e io ho vinto le elezioni col 60%. Quindi è chiaro che io, Berlusconi e tutti gli altri leader della destra abbiamo molti elettori in comune. Questo per si me sente è un po' berlusconiano lei? Si sente un po' berlusconiano in fondo? Beh no, io più che altro ho una simpatia insopprimibile per Berlusconi, soprattutto quando ne combina di tutti i colori, cioè mi sembra di avere a che fare con quegli zii scapoli che tu a Natale, come posso dire, prendi sotto braccio e dici, beh, che hai combinato quest'anno, però lui ti racconta dei fatti esilaranti, e ho capito, però che poi per gli italiani sia questo. È una tragedia questo suo silenzio di queste settimane, eh? Cioè non parla più, non viene più intervistato, come mai? Cioè, perché anche gli zii più simpatici, se continuano a seminare vento, raccolgono tempesta, non c'è niente da fare. Lei dice che in questa situazione con i mercati così si mette a parlare un casino. Io ho l'impressione, ho visto, diciamo, tutti i grandi specialisti della comunicazione evanescente in politica crollare in queste ultime settimane, perché gli italiani hanno un bisogno dannato di una idea del futuro che sia basata sulla sostanza e non solo sulle carte. Mi accorgo che persino in televisione persone che fino a qualche settimana fa riuscivano più o meno a impapocchiare qualche cosa di credibile non reggono più. Una palla di Vendola? Pronto? Com'è che disse Gesù? Come l'hai detto? Io no. Addirittura, cioè, quando lei dice... No, ma non parlo solo di Vendola. Cioè dice Vendola, non è tempo di... persone che non si occupano fondamentalmente di presentare i risultati della loro attività. Cioè, è necessario, dopo che hai preso una responsabilità e dopo che ti sei preso degli impegni, dire io sono riuscito ad arrivare fino a qui. Ma Vendola che cosa potrebbe dire sulla Puglia? Avrebbe qualcosa da presentare? Potrebbe dire che l'ha fortemente cambiata nell'immagine esterna e nell'immagine che avevamo però? Dopodiché però è evidente che ci sono alcuni meccanismi che vanno controllati, messi a punto con la maniacale attenzione insomma, di un amministratore di una piccola azienda italiana. Lo vediamo in giro per l'Italia noi. Ma sai perché ho capito che per l'Italia, sai perché ho capito che si dicono che il presidente del Piemonte non ci sia quasi mai anche lui, Cota, no? Sì, no, anche diciamo che questo è un ruolo che si può anche non fare con la presenza fisica. Quello che importa è rimanere molto concentrati sul pallone, perché però Vendola ha sei assessori donne, Lui ha un sacco di assessori donne. E come mai? Vabbè, chiudo il telefono, io me ne sto andando. Come mai? Come mai assessori? Non voglio parlare. Come no? Come no? Come mai ha sei assessori donne? Perché ha gli assessori donna? Perché sono molto brave queste donne e lui le ha scelte. Vabbè, troppo facile. E lei quante ne ha, sindaco Emiliano? Una sola. Una sola. Finisce, finisce come Alemanno lì, Finisce come Alemanno là, In realtà lo statuto mi eviterebbe di finire come Alemanno, però il problema è che il ruolo delle donne in politica dobbiamo intendere. Cioè, diciamo la verità, lei è contro questa, questa mi dica la verità, la questione delle donne. Se dobbiamo, dobbiamo assicurare. Le quote rosa un sono una buffonata, me lo dico, io lo so che una lei lo pensa. Una cosa seria. Allora, io nel 2004 vengo eletto sindaco con una lista civica che prende il 20% dei voti, di tutti i voti miei, diciamo così. La lista si chiamava Emiliano, quindi non ci sono dubbi. E ci metto dentro sei donne. Di queste donne alcune si ricandidano, delle sei assessore, che nessuna delle quali era stata eletta, intendiamo. Allora? Anzi, una sola era stata eletta, nessuna viene rieletta e ad alcune non si ricandidano neanche, perché mi dicono, Michele, non c'è. Lei le poteva scegliere da fuori però gli assessori. Ecco, allora, la seconda volta ovviamente, io sono un soggetto politico più maturo, più complicato, con una coalizione complicatissima dove entra l'UDC, l'Italia di Dio, e secondo mandato, come è noto, i sindaci non hanno il ricatto psicologico di dire se non mi ricandido io voi non andate da nessuna parte. E a un certo punto, quando dico ai partiti datemi dei nomi di donna, nessuno mi dà i nomi di donna, neanche Vendola, perché la cosa buffa di tutto questo è che il partito di Vendola a me mi dà il nome di un uomo, sia pure con i capelli lunghi, devo dire, perché ha i capelli molto lunghi col codino. Però queste donne non sono arrivate. Possibile sindaco che sindaco, scusi, la polemica di questi giorni, tutta Bari, su tutta la città di Bari, che è grande, non è una piccola città, non è Cinicello. Ci saranno Bari, professioniste adatte, donne, ecco, professioniste, persone competenti. Mi riferisco alla qualità, mi riferisco alla questione politica, cioè cioè devono essere espressione della politica, è meglio che siano espressione della politica, che abbiano consenso. Per una semplice ragione, poi qualcuno il bilancio me lo deve votare in consiglio. Se io faccio dei gesti che non sono condivisi dai consiglieri comunali, noi sciogliamo l'amministrazione. Ho capito. Allora traffico, torniamo subito. Prima c'è il traffico, torno subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. La Zanzara però, Emiliano, lei la sta facendo lunga sta storia, cioè lei ci sta dicendo, siccome ho bisogno avevo due idee, posso dirle quali? Sì. La prima è approfittare della situazione e fare quello che ho fatto l'altra volta e quello che ha fatto Vendola questa volta, cioè dire va bene, allora adesso ci metto un po' di donne amiche mie e finisce la storia, amiche mie in senso politico ovviamente, e così sforzo la mano sui partiti, mi impongo, ho sicuramente in giunta della gente che mi dice sempre sì, in più ho soddisfatto la condizione delle donne e invece? Dal punto di vista politico non ho fatto nessun passo avanti. La seconda proposta che faccio è questa: se davvero noi vogliamo le donne in politica, noi dobbiamo fare delle leggi elettorali che obblighino tutte le assemblee sovrane, Parlamento, regioni, province e comuni, ad avere il 50%. No, che obbligo? No, Parenzo, aiutami se tu. Se vogliamo le donne in politica, perché altrimenti, consentitemi, ho detto se le vogliamo. E lei lo vuole o non le vuole queste quote rosa? Mi io dica, personalmente credo che fare la riserva indiana delle donne sia un errore catastrofico. Oh, per le donne. Però Il punto fondamentale è che non si può risolvere il problema delle quote rosa con le cooptazioni nelle giunte. Nelle giunte i sindaci, quando hanno la voglia di nominare solo donne, di solito vogliono fregare i partiti e vogliono fare qualche cosa che forzi la mano. Questo lo sanno tutti. Scusi, ma che va in qualche modo rimossa. Io non nascondo che oggi ho detto questo, ho detto signori miei, se la questione femminile in giunta è una questione così importante, io ci metto 30 secondi a fare un rimpasto di giunta. Però mi dovete spiegare poi che connessione c'è tra quella giunta e il Consiglio Comunale che deve controllare il nostro lavoro. Io avrei in questo caso fatto un gesto dove ho fatto prevalere la mia visione delle cose, la visione degli elettori. Cioè, i partiti le hanno proposto dei nomi e tra questi nomi c'era solo una donna. No, anzi, ce l'ho forzata dentro io perché una lista civica delle tante che mi hanno L'unica donna è una della sua lista civica, più o meno, insomma, di quell'area là. No, perché nella mia lista civica devo dire che hanno un solo assessore, nonostante abbiano ben 6 o 7 consiglieri comunali. Noi abbiamo messo dentro una donna di una lista civica, però possiamo metterne delle altre. Il punto è che poi questa mia scelta non ha niente a che vedere con le scelte degli elettori. Se questo è sufficiente per la questione femminile, va bene, ma io la trovo assolutamente insoddisfacente. Senta, ma queste 6 donne di Vendola sono persone conosciute, sconosciute, che hanno collegamenti? Sono sicuramente brave, però sono tutte state selezionate per fedeltà, non per immagine. Per fedeltà a Vendola? Per fedeltà a Vendola? Come? Per fedeltà a Vendola, naturalmente. Per fedeltà a Vendola, escluso il vicepresidente della regione, che è del Partito Democratico, perché onestamente... Cioè sono amiche di Vendola, lei dice? Dico che sono persone di sua strettissima e personale fiducia. E beh, è normale, perché è lui che nomina la sua giunta, anche lei ha nominato... Il ruolo politico di queste donne è il ruolo di chi viene cooptato in un organo esecutivo. Non hanno alcun peso particolare nelle decisioni che vengono adottate, perché non hanno dietro di loro un sostegno politico di una forza che le elegge e che elabora una strategia politica. Questo è il punto da risolvere. Io sono in mano a Vendola. Che la questione delle quote rosa vada risolta senza ipocrisie. Se le donne devono avere un ruolo in questa fase storica, visto che hanno difficoltà notevoli nel farsi eleggere, bisogna modificare le leggi elettorali. E se la questione ha importanza, va affrontata in quella sede. Infatti adesso la Regione Puglia deve rifare la nuova legge elettorale, siccome è la regione che è Vendola che mi ha messo in questa situazione di difficoltà, e il Consiglio regionale, è stata la Commissione Pari Opportunità della regione a scatenare. Cioè, è Vendola che vuole vederci chiaro in quello che sta facendo Emiliano, se capito? Hanno tutto questo desiderio che le donne abbiano un ruolo, facciano la legge elettorale nuova, per esempio diminuiscano il numero dei consiglieri regionali, ne diminuiscano le retribuzioni e, se possibile, introducano dei meccanismi, come hanno fatto in campagna, per esempio, dove rendere più facile l'elezione di donne o addirittura renderla obbligatoria, ma non se la cavino mettendo in difficoltà ora me, ora qualche altro sindaco, chiedendo di fare cooptazione di donne in giunta che alle volte non hanno alcuna connessione. Allora, caro Parenzo, a che punto sei? No, sono arrivato in sede operativa. Sei arrivato in sede operativa, eh? Sede operativa e sto prendendo posto. Domande flash per il signor Emiliano, sindaco di Bari. Per esempio, mi dica che il partito, molto sinceramente, come suo solito, che il Partito Democratico ha fatto malissimo a non votare quella proposta che non aveva effetti pratici di Pietrista sull'abolizione delle province. Lei che farebbe? Le abolirebbe le province o no, signor Emiliano? Le province vanno abolite. Possono essere sostituite perché è necessario un potere. Il Partito Democratico ha sbagliato. Il Partito Democratico ha sbagliato, diciamo la verità, in quel caso. Beh, è stato un po' tafazzista, diciamo. Molto tafazzista. Sarebbe bastato votare a favore e non ci sarebbe stato alcun problema. Certo, c'erano tutta una serie di distinguo, ma il mio partito si deve rendere conto che la comunicazione politica e il messaggio che arriva ai cittadini, soprattutto in una fase drammatica come questa, alle volte prevale sui sottili distinguo della politica. Ma allora voi avete la BAT là, la BAT casa, la BAT provincia avete là. C'è chi ha la BAT casa, c'è chi ha la BAT provincia. Questa è la nostra visione, quella del PD della Puglia. Conferire al Consiglio dei Sindaci delle province il ruolo di assemblea per i poteri di area vasta, cioè esistono delle cose. Sì, ma mi dica qualcosa sulla BAT, Emiliano. Mi dica qualcosa sulla BAT. Inutile la BAT. È un'invenzione del centro-sinistra, bisogna ammetterlo. Fosse per lei la cancellerebbe con un tratto di penna. La BAT. Io guardi, le dico che prima la provincia di Bari era una delle province più grandi d'Italia ed era peraltro la provincia agricola più grande d'Italia. Adesso ha perso 10 comuni, peraltro una provincia fatta di soli 10 comuni è durissima da organizzare. Il presidente Pola si chiama, della provincia della BAT, sa le difficoltà, conosce le difficoltà che sta affrontando e non ho l'impressione che quel territorio ne abbia avuto un particolare. Cioè, se lei fosse presidente della Puglia la abolirebbe subito quella provincia. Questo non è nel potere del presidente. Lo so, però come dire, no? Vabbè. Io credo che le province vadano sostituite da organismi fatti da sindaci. Come mi è serio? Come mi è serio? Costi ulteriori, per esempio, le strade provinciali o le scuole provinciali che risiedono, che hanno a che fare con i comuni, le decisioni vanno prese diciamo con poteri di area vasta, non da singoli sindaci. Senta, Emiliano, prendere queste decisioni al sindaco del capoluogo, perché sennò in Italia succede la guerra civile. E quindi basterebbe fare degli organismi in cui siedono i sindaci con lo stesso stipendio che pigliano per fare i sindaci, fanno anche l'ente intermedio di area vasta, che può anche continuare a chiamare provincia, perché poi tutti i dati sul risparmio dei 24 miliardi sono tutte che cavolate. Ma no, vabbè, magari qualche. Anche se abolisci le province, le strade provinciali le devi fare. Sì, no, però meglio avere meno organi elettivi. Siamo i recordman mondiali degli organi elettivi. Un'ultima cosa, signor Emiliano, anzi due. La prima, molto secca: meglio Berlusconi che il voto? Mi dica di sì. No. Tutta sincerità, io spero che si voti il più presto possibile. Allora, niente, questo paese niente da fare. Non è governato. Rimane il fatto che se dobbiamo andare al voto per consentire ad altri, senza un'idea precisa su quello che vogliono fare. Cioè, governo di transizione, no? Governo di transizione. No, da capo. Noi abbiamo bisogno di capire quando qualcuno dei contendenti si sente in grado di dire: bene, io sono in grado di governare il paese. Io e il PD è in grado? Non ho capito. Il PD in questo momento è in grado? Ho l'impressione che non siamo ancora pronti. Ah, non è ancora pronto. Ho l'impressione. No, io le dico una cosa. Perché io non ho ancora capito in fondo qual è il progetto al quale stiamo lavorando. Per esempio, non è poco, noi domani abbiamo un'importante direzione del partito dove bisogna decidere della nuova legge elettorale. C'è chi attraverso l'adesione al referendum. Tutte cose complicatissime. Di questa cosa. Allora, c'è chi ritiene che il referendum debba ripristinare i collegi maggioritari. Sì, vabbè, varie ipotesi. Senza premio senza diciamo mediazioni proporzionali. Poi lei la coalizione l'ha capita insieme al PD, con chi si presenta il PD, l'ha capito lei? Non è ancora chiarissimo. Anche non è ancora chiarissimo. Il coinvolgimento della destra non ha ancora dato risultati chiari. Berlusconi è molto più duro di quanto chiunque di noi possa immaginare. Duro in che senso? Tante volte pensa di avere risolto i suoi problemi quando Berlusconi inciampa e si rimette un cerotto in testa. Berlusconi è uno di quelli che può campare anche con 50 cerotti in testa. Noi possiamo sovvertire il suo dominio solo quando dimostreremo agli italiani di essere più bravi di lui e di avere un'idea alternativa a quella in questo momento ancora non c'è. Non c'è l'idea. No, le faccio notare questo, che lei ha un tempismo eccezionale, Emiliano, e con questo chiudiamo, perché proprio in questi istanti, tre minuti fa, il segretario del suo partito, il signor Bersani, come lei sa, ha detto sì. una frase che è esattamente l'opposto della sua. Siamo pronti. Sei in linea, eh? Signor Emiliano, con questa cosa, buonasera. Domani illustrerà le ragioni per le quali è pronto. Io ho l'impressione che essere pronti non significa solo che siamo consapevoli. No, ma questo l'ho capito, però è un tempismo eccezionale. Buonasera, signor Emiliano, grazie. Buonasera. Domani ovviamente sarò interrogato dal segretario. Certo, grazie, buona serata, grazie. Arrivederci. Siamo qui alle 20.35, 800 24 00 24, andiamo a Bergamo, provincia di Bergamo. Michele, buonasera. Buonasera a voi, grazie per la. Parenzo, altri 5 minuti e poi ti lascio, Michele. Sì, che c'è una persona che scalpita qui, Chi c'è? Chi c'è? Chi è che scalpita? Vediamo se riconosci la voce. Un attimo, Michele, voce molto subito. Sensuale. Chi è? Parlami tu. Chi sono io? Ma io non sento una mazza, però. Ma siamo in diretta, non dico che ma è la diretta, signora, non sento lo stesso. Ma è la signora Muscardini, Muscardini. Bravo, con la U però, Muscardini. Votate un futuro ai vostri bambini, votate Muscardini. Ma questa qua è una campagna elettorale, uno slogan da campagna elettorale che lei ha ripetuto più volte, o sbaglio? No, mai usata, perché infatti i bambini sono sopravvissuti. È un'esclusiva della Zanzara. Ma soprattutto sarebbe stata una cosa ridicola, diciamo la verità, date un futuro ai vostri bambini, votate Muscardini. Ma più ridicolo di come in Italia adesso non c'è nulla, no? Signor Muscardini, perché non ci annuncia qui in esclusiva che lei esce da Futuro e Libertà? Ma perché non me ne passa neanche per l'anticamera del cervello? Ma è morto, è finito, Fini, è morto, finito, chiuso. E signor Muscardini, se lei non l'ha capito, non mi posso toccare, faccia lei per me. Ma se lei non l'ha capito fino adesso, che lei è una persona intelligente, se non ha capito fino adesso che Fini è morto politicamente, io non so ma come mi sento. Il futuro appartiene a me, nel senso che sono io che faccio delle linee politiche, se la gente come le capisce, lei. Io faccio le mie linee politiche, se la gente le capisce, le piacciono, le segue, se non gli piace. Ok, ma lei avrà una sua leadership di riferimento, un suo, non so, un io. Se stessa e basta. No, beh, certamente io con Fini ho un ottimo rapporto, sono certa e mi auspico, auguro che da settembre possano uscire delle novità interessanti. Ma si deve dimettere da Presidente della Camera? Ma secondo me il problema non è se si deve rimettere a prendere la Camera, il problema è che c'è necessità di fare più chiarezza nelle linee politiche. Vabbè, adesso me la sta buttando così in maniera... No, intendo dire... Cioè lei vuole tornare a parlare con Berlusconi o no? Ma no, perché dovrei parlare con Berlusconi? E con chi parla, se no? Con chi deve parlare? Con Vendola? Parlo con gli italiani, con non ho Vendola. Mai parlato con nessuno. Ma no, perché con Vendola? Io parlo con gli italiani. Ma capito, ma ci deve essere una prospettiva con quelli, con quegli altri da soli? La prospettiva non è il vecchio che torna camuffato da nuovo, ma è il nuovo che bisogna far nascere. Cioè, intendo dire, se ho capito, però, che piace o non piace. Nelle urne, fino adesso... Non mi ascolti che sto per darle il pensiero muscardiniano in maniera sintetica. Qual è il pensiero? Voglia o non si voglia. Sì. Se la crisi è sistemica, bisogna cambiare il sistema. Se il comunismo è finalmente fallito e finito, comunismo. È purtroppo finito anche il capitalismo. Come il capitalismo? Come il capitalismo è finito? O scende o è morto? No, il capitalismo, come è stato concepito finora, è finito. Ma come è finito? O il mondo? Ma c'è la gente che continua a comprare, a spendere, ma negozi, Muscardini, ma lei parlamentare europea sta dicendo... Ci vuole un sistema nuovo per un futuro nuovo. E che futuro è senza capitalismo? È il futuro della gente che invece che dire minchiate si ferma, studia i problemi e dà delle prospettive. No. Scusi, signor Muscardini, lei è parlamentare europeo di Futuro e Libertà. Ma mi chiamano a voi, l'abbiamo già discusso. Ma il capitalismo, come dice... Signora Muscardini, mi deve chiamare Cristiano. Onorevole Muscardini. Onorevole. Mi deve chiamare Eccellenza. Dottoressa, ma non signora. D'accordo, dottoressa Muscardini. Il signore sta in chiesa. E noi quando andiamo in chiesa andiamo a trovare dottoressa Muscardini. Chiama Cristiana. Cristiana, signora Muscardini. Onorevole Muscardini. Onorevole Muscardini. Il capitalismo è finito. Eccellenza, signora Muscardini. Eccellenza, onorevole, scusi, Muscardini. Il capitalismo è finito. Certo, come, ma come è stato, certo? Ma... tanto è finito. No, è come... finito come è stato concepito fino ad ora. Scusi, ma lei... il consumismo è superato, la mondializzazione. Vabbè, ma ci sta tirando un pippone pazzesco, ma... sulla mondializzazione, ma è un pippone pazzesco, ci sta attaccando. Ma scusi, io purtroppo, dico purtroppo per me, non per gli italiani che ne hanno i vantaggi, perché almeno hanno qualcuno che sinceramente segue i loro problemi. Io stando in Europa da ben 22 anni, pure con troppi, il voto degli italiani, pure troppi, non cooptata da qualche presidente o segretario di partito, posso dire anche che con i voti di Berlusconi, però, anche con i voti di Berlusconi mondiale, bisogna riguardare e ristudiare i sistemi finanziari ed economici. Vabbè, signor Muscardini, al di là di questo pippone che lei ci ha attaccato sui sistemi finanziari internazionali, lei tra Marchionne, tra Marchionne e la Camusso, chi butta dalla torre, giù dalla torre, tra Marchionne e Camusso, fatta questa premessa? Ma secondo me cade la torre con quei due sopra. Vabbè, ho capito, ma lei non mi dice una cosa. Io non le dico quello che vuole sapere lei, io le dico quello che voglio dire io. Questo è il problema tra noi. Vabbè. Lo stesso ci apprezziamo vicendevolmente. Beh, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Un abbraccio, grazie. Ti saluto. No, Parenzo, che fai? Signor Cruciani. Vabbè, adesso è stato un piacere, me lo faccia dire. La sua è veramente una bella trasmissione. Se lo lasci dire da uno che se ne intende. Va bene, Michele. Fammi parlare con Michele. Vattene, devo parlare con Michele. Michele dalla provincia di Bergamo. Buonasera. Eccoci qua. Mi associo all'ultima dichiarazione dell'onorevole Muscardino. No, Muscardini, no Muscardino. Visto che la zanzara ci fa compagnia nella cena, qui siamo tranquilli, ascoltiamo. Ogni tanto, non tutte le sere, non sarebbe troppo, ci faccia ascoltare, tanto come di creazione, un po' del Scilipoti e un po' del Borghezio. Ma guardi che lo faccio ascoltare quasi sempre. Ci rallegriamo un po', perché quando parlano a noi ci fa sorridere più che arrabbiare. Ma guardi, che è una costante, cioè non è che lo posso far ascoltare ogni giorno sarebbe un po' troppo, francamente, no? Allora, perché è come se dovessimo ascoltare Totò, tanto per farle un'idea. Lo so, ho capito. Vabbè. Ecco, e poi volevo chiedere una cortesia personale. Sì. Se io lo so, io ho 73 anni, non è che sia tanto, diciamo, dentro alle procedure del, anche se lo uso il computer, se io le volessi scrivere due parole personalmente via Monterosa, però con la mia calligrafia, col mio modo Michele, adesso lei mi sta chiedendo l'indirizzo, Viale Monterosa 91. Me lo consente o no? Sì, scriva Viale Monterosa 91 sì, ma 20149 Milano. Sì, certo, lo so, io conosco bene quella zona lì, ci sono stati tanti anni. Ho capito, Michele, più dell'indirizzo cosa le devo dire io? No, volevo solamente chiedere se mi posso permettere. Ma lei può fare quello che vuole, basta che non mi metta dentro la... No, non è giusto neanche questo, quello che vuole non è giusto che si dica sempre così, faccio quello che vuole. Michele, lei può fare quello che vuole, lei scrivere non è un crimine, se lei scrive una lettera non è tra i crimini dell'umanità, insomma. È una cosa normale, scrive una lettera. È sempre un importunare, una persona... Ma no, non mi pare proprio che sia un importunare. Chiede la cortesia di poter... Vabbè, le do il mio consenso, Michele, mi mandi questa lettera. Io la ringrazio, la seguiamo tutte le sere. Bene. E dica alle persone di non arrabbiarsi. No, si devono arrabbiare, al contrario, se sono arrabbiate devono venire qui a sfogarsi. Non arrabbiarsi, come si dice a Napoli, di non farsi il sangue amaro. Va bene, Antonio dalla provincia di Siracusa, buonasera, passiamo dal nord al sud. Sì. Buonasera a te Cruciani, a Parenzo, è sempre un piacere sentirvi. Grazie, dica. Saluto anche i radioascoltatori di Radio 24. Vabbè, adesso non esageri, sennò facciamo notte. No, niente, volevo dire che all'inizio della trasmissione ho sentito quell'onorevole liberale che ha votato la sfiducia a Berlusconi. Sì, aveva votato la sfiducia a Berlusconi, poi si è... Adesso è passato un altro gruppo lì. No, guardi, allora, Guzzanti è stato eletto col PDL, poi è entrato in crisi con Berlusconi per mille motivi, Putin, la mignottocrazia, eccetera, eccetera. Poi ha... sto facendo un po' di ricostruzione. Liberale con la barba rossa, no? Così, ironicamente. Comunque, secondo me l'errore che fu fatto in quella sfiducia a Berlusconi fu il fatto che è vero che l'onorevole Berlusconi era un po' calato di chance e di personalità in Italia, nell'elettorato, però non era calato di portafoglio di amici, vedi, l'errore è quello. Che senso, scusi? No, in che senso? Perché Berlusconi poi nel territorio era sempre forte, magari non aveva la popolarità personalmente, che era il traino. E poi magari trainava di meno il nome, però gli amici e i soldi l'aveva sempre, quindi allora? È stato difficile batterlo, ecco, questo volevo dire. È stato un errore di valutazione, secondo me. Vabbè, Antonio, guardi che il 14 dicembre è passato da circa 8 mesi, vorrei farle notare. Eh sì, lo so, però no, no, così è una giusta una notazione. E come lui disse, io ho votato la sfiducia, io liberale, io qua, beh, liberale con la barbetta rossa, insomma. Ma che significa liberale con la barbetta rossa? Ma dico, ma siete impazziti questa sera? Ma che cosa significa liberale dalla barbetta rossa? Ma cioè, no, è una battuta ironica, politicamente. Ma non si è capita. Ma non dice anche di peggio, io lo sto anche valorizzando, non è che lo sto offendendo. È un intellettuale Guzzanti, per carità, me ne guarderebbe. Solo che io quando militavo negli anni '80 nel PLI ero nel lato destro di Sterpa o magari con il centro di Costa, eccetera. Lei dice un liberale così alle vongole, diciamo, no? No, forse ultracristiano, una mia impressione comunque, non è che io ho visto la tessera dell'onorevole, per carità. Va bene, grazie, grazie. Luca da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, io volevo commentare l'intervento di Paolo Guzzanti, che aveva detto che a seguito dell'ondata di indignazione dei cittadini i parlamentari hanno dato una risposta puramente demagogica anche loro, rinunciando a non si sa bene quali emolumenti. Io un'idea su quale emolumento dovrebbero rinunciare ce l'ho, all'inizio che percepiscono dopo metà legislatura. Io quello gli farei rinunciare. No, non è più dopo metà, è dopo un'intera legislatura, che pure è uno scandalo. Che pure è uno scandalo, secondo me. Io lo farei rinunciare. Cioè, se uno fa per 15 anni, forse io dico, io abolirei il vitalizio tout court. Però se proprio uno deve, e anche la proposta del Partito Democratico di legare il vitalizio a un altro sistema contributivo, per carità, va benissimo, meglio di quello che c'è adesso, ma è proprio il vitalizio un controsenso. Non si capisce per quale motivo uno debba avere il vitalizio. Comunque, al di là vitalizio per poterlo cumulare con altre pensioni, con altri stipendi. E poi appunto è cumulabile, eccetera. Soprattutto quando è cumulabile, la cosa più ridicola. Se uno non ha un'altra pensione e ha fatto per 20 anni il parlamentare, allora forse è logico che sia così. Poi è chiaro che i problemi della crisi economica italiana non verranno risolti dalla diminuzione. Ma questo lo sappiamo tutti. Va bene. Del vitalizio, dalla riduzione. La ringrazio, abbiamo il traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qui, 20:47, 800 24 00 24. Mi arrivano anche le ultime da Oscar Giannino, per esempio, dal suo sito, dal suo blog, Chicago Blog, che voi conoscete benissimo. Dopo la bocciatura di oggi, che cosa aspetta l'Italia? Giannino dice sostanzialmente che i mercati, come lui ampiamente prevedeva, non si sono fermati, che è stata una bocciatura senza dubbio della manovra e che probabilmente ci sarà bisogno, se questa cosa continuerà, di tagli strutturali su settori come la previdenza, accelerando di molto questa cosa ridicola, patetica, questo lo dico io, dell'innalzamento dell'età pensionabile a partire in maniera molto molto graduale. Forse, scrive sempre Giannino, c'è anche l'ipotesi di un altro governo. Dove andiamo? Carlo da Venezia, 800 24 00 24. Carlo, buonasera dottore. Dica. Come va? Dottor Cruciani, io volevo fare un appunto solo. Quanto sentivo è inizio trasmissione l'appunto che ha fatto su Bossi con l'onorevole Guzzanti. Ma io quello che più mi noce stasera è che non ho potuto intervenire quando c'era il dottore Emiliano. Che voleva dire? Le preciso subito che sono elettore del centro-sinistra, non sono elettore del centro-destra. Vabbè, allora? Ma io personalmente ritengo una cosa, che un magistrato non può scendere in politica, e non andiamo a guardare la vecchia storia partendo da sua benedetta l'anima senatore Villalone, passando per Violante. Ma questa è un'osservazione molto pertinente. Arrivando a Di Pietro, passando per il neo sindaco di in realtà Napoli, si poteva anche chiedere ad Emiliano, perché c'è la discussione dopo la vicenda Papa dei magistrati che scendono in politica. Secondo Giuliano Ferrara, per esempio, una cosa del genere non dovrebbe essere consentita. Io sono d'accordo. Ma no, perché già ricoprono un ruolo istituzionale. Ed ecco perché, a mio parere, a mio modesto parere, ma non solo a mio, io sono un uomo dalla strada, come chiamano alcuni giornalisti, un uomo da bar, perché sono un autotrasportatore e giro tutta l'Europa, sì, allora? Per motivi di lavoro. Ma maggiormente io dico, perché l'impremente su un uomo politico, lasciamo perdere la Prima Repubblica, così parlando, può essere partito che va giudicato o va dato l'autorizzazione a procedere dopo l'arresto, ma un uomo già in sé per sé con delle doti istituzionali, con delle cose, no, ho capito perfettamente, istituzionali di rigore, ho capito il suo ragionamento, sceglie di lasciar perdere per entrare in politica, sceglie il primo ruolo per ricoprire il secondo, cioè da esecutore a fautore della legge, dico, non lo so, è solo in Italia questo, eh. Grazie Carlo. Antonello da Cagliari, buonasera Cruciani, sono telegrafico come un intervento in un blog, tanto il tempo stringe. Semplicemente vorrei farti conoscere la proposta sulla questione degli emolumenti, dei vitalizi dei parlamentari. No, mi dica velocemente cosa pensa lei della vicenda. Il giornalista sardo, professor Pubusa, lui semplicemente dice che primo professor che? Andrea Pubusa, docente di diritto amministrativo e costituzionale dell'Università di Cagliari. E che dice? Una cosa molto semplice, cioè, primo deve essere evitato il cumulo dei due trattamenti pensionistici, del vitalizio con l'eventuale attività lavorativa, perché uno può essere docente universitario, ma le scelte... Bene, poi? Seconda cosa, legare il vitalizio a semplicemente una sorta di legge Bacchelli, da dare semplicemente quando il parlamentare sia caduto in condizione di indigenza a tutela del decoro, diciamo, di chi è stato parlamentare. Poi? Portarlo in questo modo a quello che è un trattamento dignitoso, mettiamo su di 1.500 euro al mese, e evitare ogni legame con legislature e diciamo importo del vitalizio. Una sorta di legge Bacchelli, sostanzialmente è quello. La terza cosa, molto importante, dice che un'assemblea parlamentare da sola non riuscirà mai ad autolimitarsi e regolarsi e allora come bisogna fare? Stipendio. Lui propone una cosa molto semplice, cioè un'assemblea di elettori estratta a sorte, come per i giudici popolari, riunita ogni 5 anni, valuterà se sia congruo o meno il trattamento economico dei parlamentari. Eventualmente puoi controllare sul sito democraziaoggi.it. Va bene, grazie del suggerimento. Grazie. Alessandro da Roma, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Riprendevo velocemente ciò che ha detto prima Guzzanti. Ci dice tagliamo i costi della politica anche se sono provvedimenti un po' demagogici. Non lo sono perché comunque sarebbero interventi strutturali, perché comunque la manovra, anche se a volte taglia 100 milioni l'anno, comunque sono 100 milioni, e non è vero quello che dice lui, che comunque sono pochi soldi. Parliamo delle auto blu, a Roma, io sto a Roma, lo sappiamo, sono tantissime, perché non è soltanto le auto blu dei parlamentari, delle commissioni, presidenti di commissioni, ministri, ma sono tantissime. Sì, ma non è che si possono tagliare le auto blu con un provvedimento governativo. Qui naturalmente tocca poi ai singoli enti, ai singoli organismi, sì, organizzarsi, sì, per fare economia da questo punto di vista. No. Certo, il governo può dare un'indicazione per quello che riguarda i membri del governo stesso, ma gli enti locali ognuno si dovrebbe organizzare per conto proprio. Non si può fare una legge nazionale basta con le auto blu, non si può fare. Certo, quello no, però per dire che non sono pochi i costi. Sono tantissimi, fra altre cose a Roma vengono sono auto blu, spesso sono NCC, cioè noleggi con conducenti. No, per carità Alessandro, lei ha ragione, lei dice non è demagogia, come dice Guzzanti, e bisogna dare rispondere alla demagogia con la demagogia, ma in realtà sono cose concrete che fanno risparmiare. Gianni dalla provincia di Verona, buonasera. Buonasera, io sono... Oh, non lo so, non ho più neanche coraggio di parlare praticamente, perché sento delle cose incredibili, cioè... Tipo? Tipo, Tremonti va in Europa e dice, guarda, noi politici abbiamo fatto dei gran buchi praticamente e gli italiani risparmiano. Cioè, prima di dire una cosa del genere, un ministro, non è del tagliacucci praticamente, no? È un ministro che è il ministro delle finanze, dovrebbe ben stare attento, perché in giro dicono, ma sta attento, ma perché tu hai fatto i buchi e gli italiani risparmiano? Punto di domanda, cioè devi guardare un pochino come parli praticamente. Manovra. Ma scusi, quando è che ha detto noi abbiamo fatto? È la sua traduzione questa qua? È il sentire che... cioè, quando uno dice... gli italiani hanno voglio pareggiare, diciamo, il conto, il debito pubblico, il debito privato, vuol dire che io ho fatto un grande debito pubblico e gli italiani risparmiano, cioè vado a prendere il debito i soldi degli italiani per pareggiare quello che noi abbiamo. Ma quello è un dato di fatto, insomma. Ma è un dato di fatto, però è un brutto, cioè i popoli nordici non ragionano come ragioniamo noi. Loro dicono, oh, ma sta attento, se fai buchi rimanevano lì. Ho capito, allora? Da puttanata. Boh. Fanno manovra. In quattro anni la politica, diciamo, costa 80 miliardi, fanno una manovra da 80 miliardi, circa 25 miliardi l'anno per quattro anni. Allora? E come vuole che faccia a credere alla politica? Cioè non... Vabbè. Gianni, grazie. Stefano dalla provincia di Oristano, 30 secondi. Salve Cruciani, grazie dello spazio e complimenti per la trasmissione. Allora, è assurdo continuare a parlare di demagogia quando si tratta di tagliare degli sprechi che sono assurdi, che perché i politici negli ultimi decenni hanno creato questo... Sì, ma non sono solo i parlamentari, sono gli enti locali, guardiamo agli enti locali come la Sicilia o altri. Tutti i 3 milioni di persone... Ci sono non so quante persone che vivono di politica, la politica costa all'anno non so quanti soldi, su. Se non si dà un buon esempio è impossibile continuare a chiedere dei sacrifici ai cittadini, ai pensionati. Sì, solo che è un processo lungo, oggi ci propongono addirittura un'altra legge costituzionale, figuriamoci. Un po'. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupare. Radio 24, la passione si sente.